si può fare. L'attualità, anche d'estate, di Alessio Maurizi. Buonasera, buonasera cari ascoltatori, ben ritrovati. 800 24 00 24, il numero verde come ogni sera per intervenire in diretta, 18, 20 e 30. L'orario è estivo, si può fare l'attualità anche d'estate con i vostri interventi, naturalmente gli spunti di giornata, tra poco ne sentiremo diversi, le nostre pillole, le good news che, con le quali vi lasciamo prima di ogni pausa pubblicitaria. C'è un'ascoltatrice che ci chiede di pubblicarle, le pubblicheremo da qualche parte su Facebook, su Twitter, vediamo, andiamo vedendo. 349-238-6666 se ci volete scrivere sugli SMS. Su Facebook si può fare Tatino Radio 24, su Twitter si può fare 24, questo è l'account. Alessio Maurizio in studio, Riccardo Buccero, Laura Faggini in redazione, Andrea Piana che ci aiuta a scrivere e collabora alla scrittura del programma ogni puntata, Valeria Bernardi in regia, Carlo Gabardini sparito, no, Carlo Gabardini sul set di un film a Varese, Il Pretore, quindi proveremo a sentirlo più tardi durante la fase in cui si parla con voi ascoltatori. Cominciamo, Sky TG24. Decreto del fare, via libera dal Senato, 190 IC, governo battuto due volte sulle norme del pacchetto giustizia. La sentenza Mediaset, il giudice Esposito torna a smentire l'intervista delle polemiche al Mattino, ma il CSM apre un fascicolo. L'asilo russo a Snowden, prime frizioni tra Washington e Mosca, Obama annulla il vertice di settembre con Putin. Sei indagati per la donna morta dopo il parto a Sciacca, al lavoro gli ispettori mandati in Sicilia dal ministro Lorenzin. Sbarcati a Siracusa i migranti della nave respinta da Malta, il via libera italiano arrivata nella notte dopo estenuanti trattative. Distrutta la casa dell'orrore, ruspe in azione a Cleveland dove Ariel Castro segregò tre donne per 10 anni. Lando Buzzanca in ospedale, giallo sul tentato suicidio per un rifiuto sul lavoro, la famiglia parla di ricovero da stress. Insulti razzisti a un avversario, giocatore del Matera squalificato per 10 turni, sono le nuove norme dopo il caso Boateng. Andremo a dire chi lo deve non sapere, no, tu, se, noi potremmo dire, direi, la motivazione eventualmente, tu venivi portato a conoscenza di quello che succedeva. Valutazione, infatti tu non potevi non sapere perché Tizio e Sembroni hanno detto che te lo hanno riferito, e allora è un po' diverso. Ma perché tutto ciò? Ma che cosa ne so? Anche questa volta abbiamo scelto una musica di Francesco Salvi, in questo caso azzeccatissima, erano i pezzettini di audio dell'intervista del giudice Esposito, Antonio Esposito, quello che ha firmato la sentenza della Cassazione contro Berlusconi, che inizialmente aveva smentito di aver rilasciato questa inopportuna intervista al Mattino, poi è stato registrato. Non poteva non sapere, non è questo il motivo per cui l'hanno condannato, ma perché secondo loro sapeva. Certo che anche il giudice, se avesse saputo che questa intervista avrebbe avuto queste conseguenze, poteva immaginarlo, forse non l'avrebbe fatta. Intanto il CSM ha aperto una pratica nei confronti del giudice Esposito proprio per questa intervista. Il fascicolo è stato assegnato, leggiamo, alla prima commissione competente sui trasferimenti d'ufficio per incompatibilità, cioè potrebbe essere trasferito il giudice Esposito. Intanto nei talk show vanno avanti le polemiche, insomma questo fuoco di fila, questa guerra diciamo di bassa intensità per il momento tra il PD e il PDL, la crisi sembra rimandata dopo l'estate, intanto però sentiamo Puppato, una di quelle del PD che vorrebbe accelerare la, come dire, la fine dell'alleanza col PDL con la Gelmini sul partito padronale. È una sentenza ingiusta, perché 7 milioni, che sembra una cifra esorbitante a fronte di centinaia di milioni pagati al fisco, perché le ricordo che Mediaset e il presidente Berlusconi sono tra i primi contribuenti italiani. Quindi credo che non ci sia una pratica, non una consuetudine all'evasione e alla frode fiscale come ritiene 350 lei. E comunque all'interno del processo spariti nel corso di decenni. Non è così. Tra l'altro, no, non è questo l'audio, è l'altro, sentiamolo se ce l'abbiamo, quello sul partito padronale. Perché così si esprime la Puppato. Certo, non sarà un partito padronale perché la Gelmini si offende, ma insomma è un partito dove il dibattito è quello che è, sentiamo. Un gruppo che non è un gruppo politico normale, come potrebbe essere un partito di centrodestra in un qualunque paese europeo, ma purtroppo è un gruppo padronale, nel senso che ha non un leader politico come è naturale, ma purtroppo un azionista di turno, una padrona che di fatto... Ma lei parli per sé, come si permette di giudicare? No, ma io parlo per me, io parlo perché ne ho titolo politicamente. Ma non è una monarchia, lei non ha capito, lei non ha capito che moltissimi dei vostri elettori... Perché Berlusconi è arrivato al potere... è possibile parlare con la gente? No, lei non deve offendere. Allora, gruppo padronale forse è offensivo, però certo un partito nel quale si parla di passare la leadership da padre a figlia, dopo che la figlia non ha mai fatto neanche un comizio in piazza, certo che, come volete definirlo? Non lo so, padronale no, trovate un altro aggettivo, 800 24 00 24. L'ironia di Bianca Berlinguer su quanti erano in piazza a Roma, intervistando l'onorevole Romani. Abbiamo fatto una manifestazione di standing ovation in silenzio nei confronti del leader Berlusconi, noi deputati, migliaia di persone che sono presentate a Roma, un intervento del presidente Berlusconi. Migliaia, perché vuoi dire centinaia? Direi proprio migliaia, se ci fosse, scusami, se ci fosse andata se l'avrebbe vista. Intanto prosegue anche l'altra polemica nei confronti di Ignazio Marino sulla questione del palco. La mail arrivata, non arrivata, la richiesta insomma di poter bloccare la piazza, la strada, via del plebiscito, e anche la questione dei cartelli stradali segati, poi rimessi. Gaspari dice: vado in giro a vedere se è tutto in ordine. La procura ha tante cose serie da fare, leggere che la procura si occupa di questo fatto. Adesso andrò a vedere se i segnali sono nel verso giusto, se no li giro. Cioè, insomma, vediamo. Grazie a questo zero. Ma perché tutto ciò? Ma che cosa ne so? Ma perché tutto ciò? Ma che cosa ne so? Ma che cosa ne so? Ma perché tutto ciò? È una tragedia di un uomo ridicolo, insomma. Mazzo, io auguro a Marino di non avere giornate con manifestazioni pericolose come a Roma ce ne sono state nel passato. Se per me fossero queste, così potrei andare in bicicletta nel tempo libero. Ma che cosa ne so? Un uomo ridicolo, il sindaco di Roma Ignazio Marino. Chiediamo subito a un ex sindaco di Roma, Gianni Alemanno. Buonasera Alemanno. Buonasera. È un uomo ridicolo Marino per questa questione qua del palco, come dice il suo ex collega di partito Gasparri? O è un po' troppo... Ridicolo mi sembra un po' così sbrigativo. Diciamo che è stato abbastanza fazioso nel fare questa denuncia, perché quando noi avevamo problemi con manifestazioni della CGIL o altre cose, tutti quanti ci invitavano ad essere flessibili, disponibili. Adesso che per un palo tagliato si denuncia un partito nazionale, beh, mi sembra francamente una forzatura. Cioè Marino dovrebbe diciamo, soprassedere su questa cosa qua, perché... Non è così grave, insomma, un palo tagliato. Chiedere il ripristino del palo, ma insomma fare una denuncia penale per questo, francamente, mi sembra, in un momento come questo, un'inutile forzatura polemica. Tanto c'è stato il ripristino del palo, mi pare, no? Mi pare di sì. Va bene, facciamo un attimo una pausa per il traffico, Good News Traffico, poi torniamo con Gianni Alemanno, tanti argomenti di cui parlare. And now, the good news! Il forno Galletti di Grosseto vende il pane del giorno prima a metà prezzo. In negozio è comparso un cartello che recita: contro la crisi, il pane del giorno prima, sconto al 50%. L'iniziativa ha avuto subito un grande successo. Rispetto ai problemi dell'Italia è una briciola, ma una briciola alla volta si esce dalla crisi, vero Pollicino? Si può fare l'attualità anche d'estate. 800 24 00 24 il numero verde per intervenire in diretta tra poco. Adesso in compagnia di Gianni Alemanno. Alemanno, torniamo a qualche giorno fa, quando c'è stata l'inaugurazione della pedonalizzazione dei Fori Imperiali. Lei era insieme a un gruppo di manifestanti che manifestavano contro l'ipotesi della discarica che si dovrebbe aprire sull'Ardeatina, un tema complicatissimo questo dei rifiuti a Roma. Però qualcuno ha detto: Alemanno fino a due mesi prima era sindaco, adesso manifesta, cambia ruolo, diciamo così, su una questione che è rimasta aperta e che sicuramente anche lei avrebbe dovuto risolvere, quella dei rifiuti di Roma. Sì, ovviamente questa è una vecchia questione, sono circa quasi 30 anni che si campa sulla discarica di Maragrotta, bisogna trovare un'alternativa. Solo che quando io ero sindaco io ho detto con chiarezza, ho scritto alla regione, alla provincia, che non esistono siti che sono dentro la città di Roma che sono idonei a ospitare una discarica. Quando un comune dice che non ci sono siti nel proprio territorio, è la provincia, la regione che deve scegliere il sito alternativo, anche imponendolo a un comune, però di propria iniziativa. Questo non è mai accaduto in questi anni, neanche col commissario. Quindi io ho posto il problema, ma non ho trovato soluzione. Ma quindi a questo punto però dire che bisogna farla in un altro comune, quando è stato trovato questo sito, non suona un po' come uno scaricabarile, cioè purché sia da un'altra parte, perché chiaramente su questa vicenda poi ci sono anche gli aspetti tecnici, delle perizie, per amor del cielo, difficile anche entrarci, però poi ci vuole uno sforzo di volontà da parte di tutti. Sì, purché ci sia però una sorta di analisi comparata di tutti i siti che non è mai stata fatta. Se ci dimostrassero che il sito dell'Ardeatina è il migliore tra Roma e la provincia, perché l'ambito territoriale ottimale, cioè l'ambito entro cui bisogna il sito di discarica, non è solo Roma ma è tutta la provincia, cioè se ci dimostrassero che quello è il meno peggio, allora uno se ne prende una ragione. Invece questa analisi comparata non è mai stata fatta. Ma chi dovrebbe farla, Alemanno? Scusi, questa, la provincia e la regione? Chi è che dovrebbe fare questa analisi comparata per valutare tutti i siti? Fino a che esisteva la provincia avrebbe dovuto fare la provincia. E adesso la provincia di fatto è stata commissariata, dovrebbe farla la regione, anche se in realtà è subentrato un commissario di governo, quindi diciamo che il punto di riferimento è il commissario di governo. Questa analisi comparata non è mai stata fatta. Io so per certo, ne sono convinto, che esistono nella provincia di Roma dei siti ambientalmente molto più propizi di quello dell'Ardeatina, perché stanno in aree meno popolate, perché hanno meno vincoli, perché non c'è il santuario di Amore, perché non c'è il rischio di inquinamenti idrogeologici, però soprattutto per l'impuntatura di Zingaretti, che si è sempre rifiutato di verificare questi siti della provincia, questa analisi non è mai stata fatta. Allora a me sembra ingiusto porre a un'area così densamente popolata, così vincolata, eccetera, questa discarica senza aver prima dimostrato che il sito meno peggio, scusate l'espressione, che c'è dentro la realtà di Roma e provincia. Beh, certo, meno peggio è un'espressione giusta, perché è di questo si parla. Nessuno vorrebbe la discarica sotto casa, si cerca di trovare la soluzione migliore. Quali ci può dire, visto che ha detto che sa per certo che ci sono altri siti, qualche nome di questi altri siti? Quando ero sindaco fu firmato da me e dall'allora ministro della difesa Ignazio La Russa un protocollo che indicava un possibile sito nel poligono di tiro del comune di Allumiere. È un'area molto vasta, circa 27 ettari, di proprietà appunto del ministero, quindi non di proprietà di qualche speculatore, dove secondo le analisi che avevamo fatto c'era la possibilità di collocare un impianto, tra l'altro facilmente collegabile per via treno. questa proposta io avanzai non fu mai esaminata seriamente dalla provincia e neppure dalla regione, perché se ripeto era la provincia all'epoca che doveva dare una risposta. Ma perché c'è questa mancanza di collaborazione? Cioè, su un fatto tecnico come la discarica, vabbè che Zingaretti sta dall'altra parte rispetto a lei, però perché lei, qual è il motivo per cui c'è stata questa mancanza di collaborazione secondo lei da parte della provincia? Guardi, non c'è stata una grande chiarezza da questo punto di vista, perché fondamentalmente è come, allora da un lato c'è una retorica che dice i rifiuti di Roma a Roma, però non c'è nessuna grande città in Italia che sia obbligata a smaltire i propri rifiuti dentro il proprio territorio comunale. Quasi tutte le grandi città utilizzano il territorio della propria provincia, perché ovviamente un territorio più periferico in provincia è meno abitato del territorio comunale, così come succede a Roma. E di fronte a queste considerazioni ovvie c'è sempre stato uno scaricabarili. All'epoca mi pare, però non lo so per certo, che non faccio il processo di intenzioni, Zingaretti non lo volle fare per non mettere in imbarazzo i sindaci dei comuni della provincia, Bracciano, Allumiere, poi si parlò anche di Pizzo del Prete, proposto da Renata Polverini, per non mettere in imbarazzo quei sindaci, si continuò a chiedere a me all'epoca come sindaco di Roma di trovare io il sito. Di fronte alla mia insistenza nel dire che non c'era un sito realmente idoneo nella città, è venuto fuori il commissario, prima Pecoraro e oggi Sottile. Ma anche con i commissari questa analisi comparata da Roma e provincia non è mai stata fatta. Si è continuato ad andare Monte Ortaccio, Selvotta, Corcolle, adesso la Falcognana, ma non è mai stata fatta un'analisi di questo genere, che è veramente una follia, e non si riesce a uscire fuori da questa follia. Vabbè, ripeto, è una questione complessa e non è che possiamo risolverla ora qua. Però, l'importante era riportare. Sì, garantisco, non è la difesa dei manifestanti dell'Ardeatina, sì, per difendere i manifestanti dell'Ardeatina, è proprio una ingiustizia che si sta perpetrando. Dico un'ultima cosa, perdonatemi. Sì. A Falcognana si dice alla popolazione che la discarica sarà là per 1 o 2 anni massimo, con una soluzione transitoria. Ma in realtà si può parlare di una soluzione transitoria se si riuscisse a prospettare una soluzione definitiva. E anche sul versante della soluzione definitiva non viene detto nulla, quindi è veramente una situazione difficilmente presentabile a questa popolazione. Ripeto, chissà quando si risolverà questa cosa e se poi sarà quello il sito, staremo a vedere. Intanto abbiamo preso atto anche delle precisazioni di Alemanno. Invece sulla questione della pedonalizzazione dei fori imperiali, anche questo è un tema di cui ho scoperto, tra l'altro non essendo romano, che si parla da una vita, perché c'erano progetti anche durante la sua giunta, no? Allora, anche questo è una storia lunghissima. Della pedonalizzazione di via del Foro Imperiale se ne parla grosso modo dai tempi di Carlo Giulio Argan, il primo sindaco comunista di Roma. Questa questione è stata rimbalzata di volta in volta, poi arrivò a Rutelli provò a riproporre il problema, non riuscì, rimbalzò su Veltroni e arrivò sul mio tavolo da sindaco. Allora, vi posso dire la mia esperienza. Quando noi abbiamo valutato questa ipotesi, perché ovviamente sarebbe preferibile non avere le macchine che girano attorno al Colosseo. Certo, è questo il punto, no? Perché tutti pensano che è una cosa positiva. Ci hanno lavorato sindaci diversi, allora dice è il momento di stringere, anche se Marino forse ha fatto un po' in fretta le cose, però... No, il problema è un po' diverso, cioè, nel senso che quando ponemmo il problema... L'Agenzia della Mobilità, che è quella che studia, diciamo così, in termini complessivi il traffico nella città, ci disse che per poter chiudere quella zona senza creare problemi di traffico enorme bisognava allargare alcune vie che sono le stesse vie che adesso sta utilizzando Marino, tipo via Nicola Salvi, che è la via più stretta da cui si passa in questo momento. Solo che questi allargamenti furono bocciati dalla sovrintendenza perché avrebbero alterato il paesaggio. Quindi si sapeva fin dall'inizio che chiudendo, o meglio ancora facendo la corsia preferenziale che è stata fatta a fianco al Colosseo, si sarebbero creati problemi e disagi veramente enormi. Nonostante questo, a mio avviso per una ragione di immagine, cioè per una volontà, diciamo così, di poter dire già 2 mesi al suo insediamento che aveva fatto una grande svolta su Roma, Marino non ha ascoltato nessuno, è andato dritto alla propria strada e oggi si trova a mio avviso un vicolo cieco, perché prima non si è fatta una vera e propria chiusura di quella strada, perché è una corsia preferenziale da cui transitano ancora oggi 360 veicoli l'ora, tra l'altro i più pesanti, i più inquinanti come gli autobus eccetera. Secondo, si è fatto un tappo già adesso a agosto in questa zona che sarà devastante per il traffico romano a settembre. Terzo ragionamento, non c'è un progetto complessivo verso cui andare, perché quella pedonalizzazione dovrebbe servire a creare un parco archeologico complessivo che unisce il Colosseo con i fori e con il Circo Massimo, ma un progetto complessivo di questo genere non è mai stato fatto. Ma poi non c'è tempo probabilmente ancora per averlo fatto, forse lo farà Marino, però intanto la pedonalizzazione è stata fatta. Fare questo... prima il progetto sì. E poi andare a creare questi problemi romani, semmai. Beh, logica ha ragione lei, però una decisione adesso, abbastanza avventata. Adesso neanche questa cosa vogliamo riaprire troppo la polemica, mancando tra l'altro Marino, per cui diventerebbe poi... anche qui ci interessava puntualizzare, perché essendo un progetto di cui si parla da anni, forse è arrivato il momento di farlo, forse però queste sono le precisazioni di Alemanno. Forse è arrivato da anni, perché è un progetto che si può fare. Ecco, appunto, e questo poi lo capiranno i romani. E tra l'altro rinnovo l'invito agli ascoltatori 800 24 00 24, più tardi, a intervenire anche su questo. Domenica lei c'era alla manifestazione per Berlusconi in via del plebiscito, sì? Sì, certo. Anche se in altri tempi lei aveva detto, aveva auspicato insomma un cambio di passo, anche di leadership, un post Berlusconi in qualche modo, no? Allora, io ho sempre detto che è necessario immaginare un futuro per il centrodestra, ma non ho mai negato il valore della leadership di Berlusconi e soprattutto in un momento di questo genere, in cui a mio avviso è stato condannato ingiustamente, rischia di essere in maniera, diciamo così, surrettizia, cancellato dallo scenario politico, c'è bisogno che ognuno ci metta la faccia nel fare una scelta di campo e in questo caso, nel caso mio, dare la piena solidarietà a Silvio Berlusconi. Ma l'obiettivo di questo movimento, di questa protesta, che poi prenderà le forme che prenderà, vedremo più avanti quali saranno le decisioni del PDL, qual è? Perché sembra che il capitolo Grazia Napolitano abbia abbastanza chiuso le porte. Quali sono le strade percorribili per dare questa agibilità politica a Berlusconi? Oppure si tratta di affermare un principio, poi ci sarà comunque una successione? Innanzitutto c'è un problema di principio che non può essere dimenticato e non può essere sottaciuto. Secondo discorso, le tecniche, i modi possono essere tanti. Non c'è solo la grazia, ci può essere anche dei provvedimenti che in qualche modo permettono a Berlusconi di continuare a svolgere un ruolo politico. E terzo discorso, è chiaro che Berlusconi per primo, ma già dall'anno scorso, aveva posto il problema di trovare una candidatura nuova per il centrodestra, e questo è un discorso che andrà avanti. Però la candidatura come premiership è un conto, la leadership, il ruolo politico, quello non si inventa, non è che si passa... Vabbè, però quello Berlusconi lo può farlo, no? Anche se è stato condannato, la leadership del centrodestra, anche se poi non sarà candidato. Rischiamo di avere una leadership agli arresti domiciliari, che non è una cosa, insomma. Questo stanno i fatti, sicuramente. Ma a proposito di successione invece di leadership come candidati, Marina Berlusconi secondo lei è un'ipotesi per il centrodestra? Ma guardi, ancora questa ipotesi è stata tante volte paventata, tante volte insomma in qualche modo preannunciata, ma non è mai stata presentata direttamente. Io penso che le leadership debbano nascere attraverso processi politici, quindi ci sarebbe bisogno, come già stato detto, di trovare una forma di investitura, delle primarie, di un confronto più allargato, eccetera, insomma. Quindi, insomma, è più un no che un sì da parte sua, cioè il metodo quello che conta. No, dico, è più un no che un sì quello di Alemanno. E comunque conta sostanzialmente il metodo per scegliere. Una leadership inventata rispetto a una persona che non ha mai fatto politica, certo, non va bene. Una scelta, insomma, da valutare con attenzione. E invece quando a settembre ci sarà il ritorno a Forza Italia, Alemanno che fa? Come dicono alcuni in retroscena, fonda un partito nuovo? No, io ho già detto con chiarezza che non posso aderire a Forza Italia perché non appartiene alla mia tradizione, alla mia storia politica. Quindi se rinasce, come tutto lascia prevedere, Forza Italia, io non aderirò a Forza Italia e lavorerò per un partito di centrodestra, di destra, che sia alleato a Forza Italia, ma sia una cosa diversa. Ma c'è già qualcosa di concreto, qualche contatto con si è eletto Bucchino piuttosto che Fratelli d'Italia? Noi stiamo parlando con tutti, sto parlando anche con Fratelli d'Italia, che è la principale formazione che oggi esiste a fianco del Popolo della Libertà. Vedremo a settembre cosa uscirà fuori, non bisogna fare una scelta affrettata, bisogna cercare di coinvolgere tutti in questo confronto. E comunque avreste un vostro candidato premier in caso, cioè una vostra leadership riconoscibile? Una leadership riconoscibile sicuramente sì, cioè, per esempio c'è Giorgia Meloni che è una giovane molto promettente, però questo non vuol dire la candidatura al premier. La candidatura al premier deve essere unica per tutto il centro-destra. Per tutto il centro-destra. Qui sarebbe una chiara alleanza comunque con Forza Italia, e questo non è in discussione. Certamente non ci possiamo permettere il lusso di andare divisi. Va bene, grazie, io lo ringrazio Gianni Alemanno, buona serata per essere stato con noi. Abbiamo la borsa, Good News Borsa, siamo un po' in ritardo, 800 24 00 24, tra poco iniziamo con i vostri interventi e cerchiamo anche Gabardini. And now the good news. www.nonevado.it è un sito dove ognuno può segnalare attività economiche, professionisti e commercianti onesti che pagano le tasse. L'idea di Ernesto Puddu è che per raggiungere la virtù fiscale, oltre a punire gli evasori, bisogna incentivare gli onesti. Quindi niente caccia alle streghe. Casomai la caccia allo scontrino, questo sconosciuto. Si può fare l'attualità anche d'estate. Allora, mettiamoci d'accordo subito, facciamo sentire questo audio della Mussolini, se ce l'abbiamo, ragazzi, in redazione, perché poco fa vi abbiamo fatto sentire la registrazione dell'intervista di Esposito, il giudice della sentenza della Cassazione, che tra l'altro si è beccato già un procedimento del CSM. Poco fa in aula Alessandra Mussolini si è messa a leggere l'intervista di Esposito facendo finta di essere Esposito in napoletano. Non so che cosa ne è uscito, poi è stata ripresa dalla Presidente Lanzillotta. Sentiamo. Presidente, sull'ordine dei lavori. Non lo so, questa è una stupidaggine. In realtà è stato detto, ma così si dice anche spesse volte per inciso, dice vabbè, chi non poteva non sapere, perché o saccia, tu sei o titolare, come fai? Cioè, tolga la parola. L'intervento che lei stava facendo, oltre a non essere esattamente nella lingua italiana, che è la lingua che si usa in quest'aula, non era esattamente sull'ordine dei lavori. Vabbè, l'intervento non era nella lingua italiana, ma soprattutto era una cosa. Era la lettura dell'intervento di Esposito, l'intervista di Esposito. Sentiamo un altro pezzettino, se c'è. Va bene, allora senatrice Mussolini ha la facoltà di parlare per un minuto, la prego, perché abbiamo. Presidente! Una... Non più di un minuto. Presidente! Il tema è sullo svuota carceri! Tu sei o titolare, come fai? Scusatemi, questo voi tutta l'aula lo deve sentire. Cioè un'argomentazione logica, cioè non è un principio di diritto, può non significare niente e può significare qualcosa, ma non mi fa purtango a pasti cose. Noi non andremo a dire chi non poteva, tu vieni portato a conoscenza di quello che succedeva. Scusi, può intervenire in discussione generale sul tema? Cioè, capite la situazione in cui siamo al Senato e quello che sta succedendo? Provate a immaginare se questa cosa dovessimo raccontarla a qualcuno all'estero, che non ci capirebbe assolutamente nulla. Poi è intervenuto anche Calderoli, mi dicono. Sentiamo che cosa ha detto su questa vicenda qua. Io ero estremamente interessato all'intervento dell'onorevole Mussolini. Se me lo potesse tradurre in bergamasco gliene sarei grata, perché sennò non riesco ovviamente... A lei non sarà privato di questo piacere, perché la senatrice Mussolini sul tema del decreto potrà intervenire in discussione generale svolgendo tutto il suo intervento. In napoletano. Ovviamente non è prevista la traduzione simultanea. Boh, vabbè, poi dicono che i lavori parlamentari devono andare avanti anche d'estate, ma io chiuderei direttamente il Parlamento, perché se questo è il livello della discussione era meglio andare in vacanza e tornare più lucidi a settembre. Andiamo con i vostri interventi all'800 24 00 24 nello spazio in cui vorremmo avere anche Gabardini. L'abbiamo chiamato, però si vede sta girando proprio in questi minuti qualche scena del film. Allora rimandiamo l'appuntamento con lui e sentiamo Dario che ci chiama da Roma. Buonasera Dario. Buonasera a lei. Abbiamo parlato di molte cose che riguardano Roma, dai fuori imperiali alla discarica. Perché credibile? È troppo grande, la città funziona tutto troppo poco. Quindi. Per la discarica, sì. Una cosa rapidissima. La discarica innanzitutto è pronta, quindi vuol dire che non è da oggi che Marino sicuramente avrà firmato, ma stiamo andando avanti da un po' di tempo perché è pronta. Non si può accedere, nessuno può avere accesso, quindi non si può vedere nulla. Si parla di una discarica, dico si parla perché le cose sono chiare, di indifferenziato, quindi tutti i terreni attorno e anche tutti gli abitati perderanno moltissimo perché è evidente, si può immaginare l'odore, e infine sembra i terreni accanto sono stati già venduti, quindi è giusto quello che ha detto Alemanno sotto questo punto di vista, che non è per un anno o due anni come siamo stati assicurati come abitanti della zona, ma sicuramente durerà molto di più. Sì, però mi scusi Dario, questo è vero, purtroppo in Italia l'emergenza diventa la cosa più regolare che dura di più in assoluto, però il discorso che lei fa per la discarica di Falcognana vale anche per l'ipotesi, vale anche per la discarica in un altro punto, cioè il punto poi è capire se questi disagi che ci sono in una determinata zona però poi nell'interesse generale serve a qualcosa oppure no, perché se parliamo del fatto che i terreni si svalutano dove c'è una discarica, questa è una banalità. Ma non ho terreni, quindi non è questo il problema. No, l'ha detto lei. Il problema è molto più ampio. Certo. Potrei anche dire che sono un esperto in materia, perché mi occupo di controllo e qualità delle acque, di falda, e quindi bisognerebbe studiare, bisognerebbe capire qual è il vero problema dell'area. Ma questo non è stato fatto. Non esiste un piano ambientale su questa zona, che addirittura doveva rientrare in quello dell'Appia Antica, quindi senza poter costruire un piano regolatore specifico. Ci fanno una discarica, che già esiste, tra parentesi. Va bene, Dario. Perché è una discarica che viene utilizzata. Però entrare nel merito di questa questione è un po' complicato, capisce? Perché a parte che è una questione poi puramente romana. Io ho fatto la domanda a Alemanno anche perché ha fatto un po' specie vederlo poco più di un mese dopo aver abbandonato la fascia tricolore di sindaco, essere in piazza a protestare per la discarica, un tema, quello dei rifiuti, che naturalmente lui, finché è stato sindaco, ha contribuito a risolvere o a creare. Questa è un po' la domanda. Poi sul sito della discarica naturalmente si può intervenire al numero verde 800 24 00 24, però evitando di finire nei rivoli tecnici di questa cosa, che se non ci capiamo più nulla. Sempre da Roma, Francesco, buonasera. Buonasera. Prego. Senta, io avrei voluto chiedere al sindaco Alemanno innanzitutto dove era negli ultimi 5 anni quando parla di viabilità, dato che in precedenza erano allo studio dei progetti di riqualificazione viaria, ad esempio dello svincolo della Salaria con via dei Prati Fiscali, oppure l'interramento della tangenziale est, tutti i progetti che erano in fase di studio prima che lui arrivasse e che poi sono morti. E naturalmente è molto semplice sparare poi contro la decisione di Marino di chiudere via dei fuori. A lei piace l'ipotesi che di pedonalizzazione? Non mi entusiasma, perché mi sembra che sia stata fatta in maniera un pochino affrettata e più ideologica che utilitaristica. Però quindi su questo dà ragione ad Alemanno, su questo dà ragione ad Alemanno, però. Quindi sì, ma infatti io non è che sia entusiasta dell'elezione del nuovo sindaco. Vabbè, però, sì, grazie Francesco, grazie. Andiamo ad Alessandra che ci chiama da Milano. Se può abbassare la radio, così sì, non sentiamo il tempo. Buonasera. Senta, io penso che le vicende di Berlusconi o come altre storie sull'omofobia, altre cose, siano un po' dei modi per intrattenere la gente, diciamo, alla radio o alla televisione, senza affrontare i problemi più urgenti, i problemi veri del paese. Per esempio, quali problemi? Ci dica lei, Alessandra. Per esempio la disoccupazione, perché non si sta facendo nulla di concreto. In Italia la disoccupazione vera non è rilevata, è rilevata in maniera artificiosa, in maniera con tanti trucchi, in maniera che non si sappia esattamente. Cioè lei dice che la disoccupazione reale è maggiore di quella misurata, boh, non è lo so, molto maggiore perché non c'è un collocamento obbligatorio come in altri paesi, non c'è un salario sociale, che vorrebbe dire tra l'altro una serie di altre cose per portare al lavoro e dare il lavoro obbligatoriamente. Vabbè, fare Alessandra, un però sì, ah, sì, ho capito. Lei vorrebbe sentir parlare di altri problemi di disoccupazione, però insomma ne parliamo altre volte. Ci sono anche altri programmi da questo punto di vista. Non è che non si può parlare di Berlusconi, della condanna, delle conseguenze di quello che è avvenuto, ha capito? No, non se ne può fare a meno. Alessandra, mi dispiace, che dire. Andiamo a Mariella che ci chiama da Trieste. Buonasera. Buonasera, signor Maurizi. Eccoci È molto qua. Interessante a sentire lei e il suo coadiutore, come posso chiamarlo? Il suo. Collega, no, non è giovane. Il nostro amico Carlo Gabardini, sì, che però stasera non c'è. Ora, fra poco, vediamo se lo troviamo. Vabbè, sì. Ma lo saluti lo stesso. Senta una cosa. Senz'altro. Io volevo dire questo, che semplicemente sto ascoltando, perché sì, ogni giorno vi ascolto. Quello che ha detto Alemanno sembra che lui fino adesso sia stato su Marte o pianeti sconosciuti nella galassia, non lo so io. Un uomo che è stato là 5 anni ancora parla contro una persona che appena si è insediata. Ripeto, guardi, io non ho votato per nessuno, faccio parte di quella maggioranza del popolo che non va più a votare e che vorrebbe che vederli sparire tutti, perché non è una classe politica questa, è uno sconcio. Anche perché, sa che cosa voglio dire? Adesso che ci stanno strappando le vesti per questa dannatissima sentenza, che tutto il giorno sì, vediamo la Santa Anchella, Biancofiore e tutta quella risma là, io vorrei capire una cosa. Quando andavano a fare le proteste e dicevano che la magistratura è il cancro, cioè voglio dire, è una cosa gravissima, quella volta allora andava tutto bene? Quando quel povero Misiani, giudice, che lo criticavano per i calzini perché era seduto sulla panchina, voglio dire, hanno ridicolizzato tutta la magistratura. Ma adesso che cosa stanno facendo? Voglio dire che veramente è un caso unico, io non li vorrei più vedere in televisione dalla mattina alla sera. Ma scusi, ma quando lavorano questi che sono sempre in televisione dalla mattina alla sera? Vorrei sapere questo. E vabbè, il loro lavoro è anche andare in televisione a comunicare, magari qualcosa di buono, magari non scene come quella che abbiamo sentito poco fa, le facciamo risentire tra poco, la Mussolini e Calderoli in un surreale dibattito sulla sentenza e sul giudice Esposito. Adesso facciamo una breve pausa per il traffico, prima una buona notizia, traffico, poi torniamo, 800 24 00 24. And now, the good news! Ad Alessandria c'è una Cargo Bike, una bici rimorchio che recupera e smista i cibi invenduti. A guidarla è Antonino, un disoccupato impegnato con una borsa lavoro della Caritas. Ogni settimana fa il giro degli esercizi commerciali, recupera i cibi invenduti e li porta a un centinaio di famiglie bisognose. Ecologico ed economico. Si può fare l'attualità anche d'estate. Adesso vi portiamo a Saluzzo, in provincia di Cuneo, siamo in Piemonte, dove sta accadendo una vicenda un po' strana, che insomma inaspettata forse anche da un certo punto di vista. Ci sono alcune centinaia di immigrati nordafricani che stanno lì per fare i lavori agricoli, ma a quello che abbiamo capito, il comune ha tagliato l'acqua in un accampamento però abusivo, non si capisce più nulla. Abbiamo convocato il sindaco di Saluzzo, Paolo Alemano. Buongiorno, buonasera. Buonasera a lei. Sindaco, allora io ho descritto così, perché i titoli dei giornali erano: vogliamo l'acqua, 150 migranti africani occupano la rotonda principale di Saluzzo, la Lega, che manco a farla apposta, vi accusa di avere sottovalutato il problema degli immigrati dalle vostre parti. Che succede? Beh, la sua recondizione noi non abbiamo qua nessuno per stare occupati dai migranti, è servita. No, non sentiamo bene il sindaco. Dove si trova? In un punto dove, non lo so, non si prende bene il telefono, sindaco, dov'è? No, non lo sentiamo, è caduto. Allora, lo recuperiamo tra un attimo, perché così non si capiva nulla. E andiamo avanti con gli ascoltatori intanto. Giulia da Gorizia, buonasera. Buonasera. Io sarò molto breve, le dico subito. Io sento solo parlare di discariche. Ma la raccolta differenziata, non sanno proprio che esiste anche quella moda da 20 anni al nord. Ma lei parla di Roma? Io parlo di Roma. Sì. Io volevo sapere. No, beh, la raccolta differenziata nessuno la prende a cuore. Guardi, Alemanno non gliel'abbiamo fatto ripetere perché lo va dicendo in giro da mesi, e dice che la raccolta differenziata sotto il suo mandato è passata dal 17 al 30%, sempre molto sotto quelle che sono le soglie richieste. Mi però pare un po' pochino. È poco. Qualcosa è stato fatto, però è ancora molto poco. Bisogna essere un po' più severi. Assolutamente. Bisogna fare la raccolta differenziata. Vabbè, l'ha chiamato per questo, Giulia, grazie. Esatto. Andiamo a Ugo che ci chiama da Venezia. Nel frattempo stiamo provando a recuperare Saluzzo? Sì, proviamo. Ugo, buonasera. Buonasera a lei. Come sta? Sta bene? Abbastanza, sì. Lei? Così. Ecco. No, niente, volevo in maniera molto stringente fare i miei complimenti, quanto voglio dire. È asciutto, però insomma il suo lavoro lo fa molto bene, ecco. Grazie Ugo, tutto, i complimenti qua fanno sempre piacere. Andiamo al tema dell'argomento del suo intervento. Di cosa voleva parlare Ugo? Io voglio parlare di 350 milioni di cose, però me ne lasci fare solamente una. Cominciamo con la prima, via. Ok, allora niente, io ho il grande cruccio che ormai da un po' di anni all'estero si va diffondendo l'idea che gli italiani insomma sono tutti quanti come quello lì, ecco. E invece non è vero perché non è così. Per cui se lei mi lascia gentilmente, visto che ho studiato lingue, di fare un piccolo appello in inglese e in tedesco, così giusto 2 secondi. Sì, posso? In 30 secondi lo facciamo. Ok, allora, ladies and gentlemen, welcome to Italy first, and I mean, don't think that we are all like Mr. B, okay? Because Italian, I mean, really Italian people, they are completely different. We like food, we like enjoying life, we like women, and so enjoy your journey here in Italy. Okay? Io ho capito l'inizio che sembrava il messaggio di saluto sugli aerei, e poi il resto, non sono forte con l'inglese, un po' meno. Cosa ha detto? Che ci piacciono le donne? Perché lei non piacciono le donne, cavaliere, mi scusi. È proprio quello che somiglia di più al cavaliere, non ho capito. Lei ci vuole dare un messaggio all'estero per differenziarsi al cavaliere, e poi dice che ci piacciono le donne. Questo, perfetto. Ok, we like women, normally just one, sometimes two, ok? Perché se no uno pensa 20. Ugo, ma lei da quanto tempo pensava di fare questo intervento? Cioè, da quanti mesi sognava di fare questa cosa? Da questa notte. Perché non ci ha pensato benissimo, sta sparando un po' così. Vuole andare avanti, vuole concludere questo messaggio in inglese? Come, scusi? No, dico, questo appello in inglese, come lo chiudiamo? No, sa che cosa? Che io quando sto così mi emoziono, l'aveva provato, gli era venuto bene, adesso che in onda viene male. Comunque me lo lasci fare pure in tedesco, 10 secondi. No, ma in tedesco non lo capirebbe nessuno, questo non c'è gusto, perché il tedesco non lo sa nessuno, ha capito? Quindi chi ci ascolta in tedesco, Ugo? Quelli che vengono da Bremen, da Hamburg, da... Ma quelli capiscono anche l'inglese. Chiudiamo questo appello di Ugo in inglese, in 10 secondi, con una frase di saluto agli stranieri che ci stanno ascoltando. Ok, enjoy Italy, enjoy our food, and don't forget, we are not like Mr. B. Va bene, Ugo, grazie, buona serata. Ma abbiamo recuperato il sindaco di Saluzzo, ci proviamo, Paolo Alemano. Sono in ascolto, buonasera. Eccoci, sì, no, purtroppo sa, non sentivamo bene, quindi poi è caduta la linea. Sì. Lei stava dicendo che la ricostruzione che avevo fatto io di quello che sta accadendo nella sua città era o non era corretta? No, non è corretta. Non è corretta. Non è giusto dire che abbiamo tolto l'acqua. Noi abbiamo disattivato una presa d'acqua abusiva che portava dell'acqua direttamente nell'accampamento, sì, dove non c'è lo scarico, quindi creava un problema igienico-sanitario. questo campamento spontaneo ha un blocco di servizi con diverse prese d'acqua a 80 metri. Ma questo accampamento d'acqua è sotto il controllo del comune o è una cosa abusiva? Allora, questo accampamento è abusivo. Noi abbiamo questa situazione. Abbiamo all'incirca 600 uomini tutti attirati da un mercato della frutta. Quelli occupati, che noi sapevamo da tempo, sì, avrebbero trovato lavoro, sono 200. Questi 200 sono accolti come il Fo, quindi un'accoglienza assolutamente dignitosa, in campi dotati di container che il comune di Saluzzo ha allestito con la Coldiretti e altri due comuni confinanti. Che non sono però questa tendopoli di Foroboario. No. Noi abbiamo dato accoglienza a quelli che avevano un contratto lavoro, di lavoro, sono fidelizzati con le aziende e quindi sono in grado di insistere sul territorio e di essere occupati nella raccolta della frutta. E questi altri invece che si sono concentrati in questa tendopoli? Accanto a questi si è creata una massa di persone che abbiamo cercato di dissuadere dall'accamparsi anche con un'ordinanza che impediva gli accampamenti spontanei, proprio perché era inutile che coltivassero l'illusione di un lavoro, perché il lavoro non c'è. E però punto chi è che dovrebbe occuparsi, diciamo, del rispetto dell'igiene, della legalità di questa tendopoli? Cioè, tocca sempre a voi il comune, perché la Lega, per esempio, vi accusa di avere sottovalutato questa questione qua. Guardi, la Lega lasci perdere, perché loro sono convinti che queste persone rispondono agli avvisi sui giornali. Insomma, questi sono in buona parte migranti usciti dal piano dell'accoglienza del 2011, gente che è sbarcata in Italia dopo la crisi libica, dopo la guerra del Mali, quindi non sono persone raggiungibili con dei messaggi, sono qui perché non sanno dove andare. Queste persone, ripeto, senza nessun aggancio occupazionale reale, neanche in prospettiva, hanno comunque deciso di insistere sul territorio, di rimanere attirati dalla speranza di un lavoro. Ecco, lavoro però a questo punto, io so che lei li ha incontrati questa mattina, cioè le condizioni di questa tendopoli, cioè, sono sotto il controllo del comune oppure diventa una situazione di illegalità? La situazione è di illegalità, diciamo che viene tollerata perché loro di fatto hanno costruito delle capanne, hanno dei ripari improvvisati. Noi siamo in grado, come ho appena detto, di fornire acqua. Dobbiamo chiudere, dobbiamo chiudere, sindaco, mi dispiace. La situazione sotto profilo sanitario è sotto controllo. Loro però, naturalmente, stanno dove non dovrebbero stare. Va bene, dobbiamo fermarci, mi dispiace, non c'è più tempo. Il collegamento è stato difficoltoso. Torniamo dopo il giornale radio 800 24 00 24. And now, the good news! Nella provincia di Roma, le mamme aiutano le mamme. Il progetto Vicine Vicine, lanciato dall'associazione Il Melograno, ha raccolto un piccolo esercito di 100 mamme che mettono a disposizione il loro tempo e la loro esperienza alle neo mamme sole nei primi mesi di vita del bambino. Di mamma ce n'è una sola, certo, ma in questo caso ce ne sono tante. Si può fare l'attualità anche d'estate. Eccoci qua, cari ascoltatori, ben ritrovati. 800 24 00 24. Tra poco riprendiamo a sentire i vostri interventi. Abbiamo chiuso con l'intervista al sindaco di Saluzzo sulla questione dei migranti nordafricani a cui è stata tagliata l'acqua in un campo abusivo. La Lega accusa il sindaco con queste parole: i migranti, ha detto il consigliere comunale Andreis, sono come la pioggia che il saluzzese non assorbe più. I nostri figli vivranno da alluvionati. Notizie da Carlo Gabardini sul set del film che sta girando a Varese. Sto girando e quindi devo rimandare il collegamento con voi. Lo sentiremo tra pochissimo. Adesso titoli del TG3. Epifani sulla condanna del Cavaliere, nessuno sconto, nessuna via d'uscita, accetti la sentenza e faccia un passo indietro, la legalità prima di tutto. Durissima la replica del PDL da Epifani, parole incendiarie, così salta il governo, i falchi già si preparano ad una campagna elettorale estiva. Tra poco al Senato comincia la discussione sulla decadenza di Berlusconi dopo la condanna, ai 5 Stelle bisogna votarla subito, ma il rinvio è sicuro. Ancora polemiche sulle dichiarazioni del giudice Esposito, il magistrato insiste, parla di intervista manipolata, ma il CSM apre una pratica. Ok del Senato al decreto del fare, ma il governo va sotto più volte, slittano i provvedimenti su finanziamento ai partiti, omofobia e voto di scambio. Il presidente Obama cancella il vertice di settembre con Putin, deludente la decisione di concedere asilo a Snowden, dice la Casa Bianca. Rifiutati per giorni dalla Valletta, sono stati accolti a Siracusa i 102 migranti salvati da una nave cisterna al largo di Malta, grazie dell'Europa al nostro paese. Andremo a dire chi deve pronunciare, no, tu, se, noi potremmo dire, sì, una motivazione, eventualmente, tu venivi portato a conoscenza di quello che succedeva. Presidente, sull'ordine dei lavori. Non lo so, questa è una stupidaggine, in realtà è stato detto, ma così si dice anche spesse volte per inciso, dice vabbè, chi non poteva non sapere, perché o sacci, tu sei o titolare, come fai? Cioè, tolga la parola. L'intervento che lei stava facendo, oltre a non essere esattamente nella lingua italiana, che è la lingua che si usa in quest'aula, non era esattamente sull'ordine dei lavori. Ma che cosa ne sa? Ma che cosa ne sa? Va bene, allora senatrice Mussolini ha la facoltà di parlare per un minuto, la prego, perché abbiamo presidente. Una... Non più di un minuto. Presidente. Il tema è sullo svuota carceri. Tu sei o titolare, come fai? Scusatemi, questo voi tutta l'aula lo deve sentire. Cioè è un'argomentazione logica, cioè non è un principio di diritto, può non significare niente e può significare qualcosa, ma non mi fa purtango a pasticcose, noi non andremo a dire chi non poteva, tu vieni portato a conoscenza di quello che succedeva. Scusi, può intervenire in discussione generale sul tema? Io ero estremamente interessato all'intervento dell'onorevole Mussolini, se me lo potesse tradurre in bergamasco gliene sarei grata, perché sennò non riesco. Ma lei non sarà privato di questo piacere, perché la senatrice Mussolini sul tema del decreto potrà intervenire in discussione generale svolgendo tutto il suo intervento. In napoletano. Ovviamente non è prevista la traduzione simultanea. Cioè il risultato è che la Mussolini fa diventare simpatico persino Calderoli, che è intervenuto chiedendo di tradurre in bergamasco, dopo che la Lanzillotta aveva detto che bisognava parlare in italiano al Senato, l'intervento della Mussolini, che altro non era che la lettura in napoletano, lei se lo può permettere visto che è napoletana, dell'intervista del giudice Esposito al Mattino, che tanto ha fatto infuriare quelli del PDL, giustamente, perché è un'intervista del tutto inopportuna. Non si capisce questo giudice come gli sia saltato in mente di fare questa intervista, tra l'altro contribuendo a creare confusione su confusione. Il CSM ha aperto un fascicolo per trasferirlo. Del resto sono ore in cui, insomma, è facile perdere la bussola. Accade anche al Mite Civati, in un talk show, non so quale fosse, in cui la Biancofiore gli fa perdere le staffe. Sentiamolo. A cominciare dal fatto che nella pubblica amministrazione c'è un sacco di gente che guadagna non più di Obama, la metafora funziona molto bene, ma più di Napolitano. che ci siano pensioni d'oro. Oggi abbiamo visto la risposta a un'interrogazione per la quale non sono i miei amici, Biancofiore, non sono miei amici. Se io ti faccio, no, io un non esempio. Mi rifiuto, adesso mi incazzo proprio. Perché stai dicendo scemenze da tutta sera. No. Oh, finalmente Civati che tira fuori gli attributi. Mi incazzo, dice alla Biancofiore, che in effetti è una che te lo toglie perché è sempre lì agguerrita, accanita, a sempre a puntualizzare, sa fare il suo lavoro. Del resto, Civati ai nostri microfoni qualche giorno fa aveva detto: il centrosinistra non ha, il PD non ha un suo Brunetta e nemmeno una sua Biancofiore. Cioè, abbiamo un altro pezzettino di Biancofiore che dice, non ho capito bene base a cosa, che il PDL è in maggioranza al Senato. Siamo al governo perché abbiamo vinto le elezioni al Senato, non è un mistero, ci sono delle regole. Avete vinto le elezioni al Senato? Abbiamo vinto le elezioni al Senato, le abbiamo vinte alla Camera, le abbiamo di fatto vinte al Senato. Ma come? È così, avevamo un voto. Ma questa è una bugia, contro le bugie. Ma questa è una bugia ridicola. Avete la maggioranza al Senato. Ma come si fa? Perché tutto ciò? Dice la canzone, giustamente. Del resto, la Biancofiore, due giorni fa da noi, no, era forse la settimana scorsa, quando era stato? La settimana scorsa, aveva detto, no, è lunedì, perché era dopo la manifestazione del PDL in via del Plebiscito, eravamo 25.000, l'ha confermato anche la questura, subito abbiamo chiamato la questura che ha smentito. Quindi, insomma, prendetele così, le affermazioni della Biancofiore. Cosa abbiamo ancora da sentire? Qualcosa? Sì, abbiamo Emiliano, che dice: con questo PDL non si può riformare la Costituzione, sapete che c'è anche questo in questo agosto di politica. Sentiamo Emiliano. La carta costituzionale con la quale facciamo i conti oggi è stata scritta dalle migliori personalità della storia repubblicana. Riscriverla con uno staff, diciamo, di minore importanza non mi pare il caso. Questo è il punto di giornata sulle vicende più importanti. Adesso invece è il momento del nostro punto di vista strambo, come ogni sera a quest'ora cerchiamo così di portare un punto di vista appunto un po' diverso. Questa sera abbiamo convocato il professor Enrico Cheli, psicologo, sociologo, docente all'Università di Siena. Lo ritroviamo volentieri. Professor Cheli, buonasera. Buonasera a voi. Conduce delle ricerche, c'è un metodo, ci sono dei corsi, c'è un libro per essere felici, per ricercare la felicità, ma una felicità, ci aveva detto l'ultima volta che ci eravamo sentiti, professor Cheli, mi smentisca se sbaglio, che non dipende dal fatto di vincere alla lotteria o di fidanzarsi con la modella del momento, ma essere felici a prescindere, è questo il punto, come si fa? Esattamente, guardi, per capire come si fa è più semplice capire come facciamo a renderci infelici, perché l'infelicità la conosciamo tutti, quindi pensavo di dare alcuni piccoli spunti ai nostri radioascoltatori su come ogni giorno ci rendiamo infelici senza rendercene conto. Quindi in realtà basterebbe già interrompere. Cioè togliamo queste cause che ci autoinfliggiamo di infelicità e staremo già meglio, per esempio? Esattamente. Facciamo allora, questi esempi, sì. Benissimo, allora intanto un primo motivo di infelicità è di avere una cattiva opinione di se stessi. La maggior parte delle persone non si apprezza, anche se magari pubblicamente sostiene il contrario, ma in fondo ha un'insicurezza, una cattiva opinione di sé. E vedremo poi dopo come fare, perché poi vorrei proporre anche qualche esercizio, qualche piccolo. Sì. Noi siamo qua, l'abbiamo convocata pratico. Per questo, proprio per avere anche dei suggerimenti. Ma non so se ha sentito poco fa, se era già in onda, una come la Biancofiore, per esempio, del PDL, che è sempre molto sicura di sé. Nelle sue esternazioni, nelle sue dichiarazioni politiche, non la voglio trascinare sul campo politico, professor Cheli, facciamo finta che non ci interessi il merito di quello che viene detto. Una così è felice perché è sempre molto sicura di sé. No, quello è ciò che fa vedere all'esterno. Io sto parlando di quello che c'è veramente dentro, nell'intimità. Benissimo. Cioè, l'opinione che io ho di me stesso, non quella che gli altri hanno di me. Okay. È proprio lì che rimaniamo intrappolati. Abbiamo bisogno che gli altri abbiano una buona opinione di noi, ma questo non avverrà mai, nel senso che ci saranno sempre persone che ce l'hanno buona, che non ce l'hanno buona e persone indecise che non hanno alcuna opinione, quindi quello che conta è la mia opinione di me stesso, questo è fondamentale e questa dipende interamente da me, è una cosa che io posso in qualche modo vedere e posso anche far crescere, posso migliorare e questo è un punto importantissimo. Un altro punto importante è che non ci amiamo abbastanza. noi non siamo i migliori amici di noi stessi, anzi spesso siamo dei nemici o comunque dei critici di noi stessi, e invece sarebbe fondamentale che ognuno di noi fosse il miglior amico di se stesso, e quindi la persona che più si autosostiene, che più... Questo non vuol dire non vedere i propri errori, per carità, anzi, sì. Un bravo amico ci fa anche capire quando sbagliamo, però ci sostiene, ce lo fa capire in un modo positivo, in un modo che ci permette di imparare e di migliorare. Non dobbiamo anche essere troppo severi, ecco, anche con noi stessi quando facciamo degli errori, quando le cose non vanno bene. Perché poi stiamo parlando, il professor Chieri sta parlando di queste cose che però stanno in un metodo, in un percorso. Poi se abbiamo tempo parliamo anche di questo, se no magari la prossima volta, che voi state portando avanti, perché si parla, c'è cioè un libro, c'è cioè tutto un lavoro, una misurazione che avete fatto, cioè sono cose, anche se fanno magari ridere, ma sono cose serie, però stava facendo l'elenco dei punti, poi ci faccia anche gli esercizi, però non dimentichiamoci. Sì, assolutamente, ecco. Sì, assolutamente sì. Quindi? Allora, un altro punto in cui creiamo infelicità in noi è che non siamo in contatto con il nostro corpo. La maggior parte questo, di noi questo è difficile, che vuol usa dire? Il corpo, compresi quelli che fanno sport. Non crediate che semplicemente perché uno fa attività sportiva abbia un buon rapporto col corpo. Beh, però già una bella premessa. Perché, è già una bella premessa, ma purtroppo, e le parlo da ex sportivo, sì? Agonistico, quindi quando facevo sport in realtà avevo un rapporto col mio corpo molto peggiore di adesso. Adesso faccio attività motoria, ma la faccio nel rispetto del mio corpo, io sento il mio corpo e quindi cerco di fare le cose che lo fanno star bene, anche sollecitandolo. Guardi, proprio oggi sono reduce da una bella camminata in montagna, anche molto faticosa, però senza mai martoriarlo, ma sempre cercando di rispettare i limiti, di andare un po' avanti. Ecco, quella fatica che fa star bene, che uno arriva a fine serata e dice: oh, finalmente ho fatto qualcosa, esatto, mi sono mosso. Sentirlo, senza esagerare. Sentire. Sì, quello che non sappiamo fare è di ascoltare il nostro corpo, di sentire le sensazioni. Il nostro corpo è una sorgente continua di sensazioni, molte delle quali estremamente positive. Mm. Io starei qua ore e ore ad ascoltarla, però siccome il tempo passa, vogliamo andare in pillole anche qualche piccolo suggerimento, esercizio? Sì. Allora, partiamo proprio dal corpo. Un esercizio che noi facciamo fare durante i nostri corsi, proprio all'inizio, è di imparare a diventare amici del nostro corpo, ad ascoltarlo, a sentirlo, ad apprezzarlo. Ma come? Molto semplice, si può fare seduti, dove siamo adesso, anche i radioascoltatori, quelli che non guidano, mi raccomando, quelli che sono in macchina non lo facciano adesso, lo facciano perché quando ci sono fermano. Casi di narcolessia, cioè si dorme? Si ecco. Cade. No, anche perché bisogna chiudere gli occhi, no, ecco, quindi guidare a occhi chiusi non è consigliabile. Quindi seduti, ecco, occhi chiusi. Tutti quelli che sono a casa invece lo possono fare tranquillamente, chiudono gli occhi e cominciano a ascoltare le sensazioni del corpo partendo dai piedi. Proprio sentendo, non c'è da interpretare, non è un esercizio di psicoanalisi, per carità, è solo sentire... Cioè cercare di ascoltare, proprio come se fosse l'ascolto di una musica, per esempio, il proprio corpo, dai piedi a salire fino a tutto, esatto, il resto. Esatto, a salire piano piano, si sta un 10 secondi sui piedi, poi si sale alle caviglie, piano piano ai polpacci, molto lentamente, e si sentono le sensazioni. Va bene, e questo è uno. E questo già dopo un 4-5 minuti, perché ci vogliono 4-5 minuti per arrivare dai piedi alla testa, già il corpo comincia a mandarci sensazioni e molto e questo ci fa stare già meglio, professore. Esatto, toglie anche un po' di stress, toglie un po' di cattivi pensieri. Questo non sembra difficile come esercizio, proveremo. No. Un altro esercizio prima di chiudere? Sì, allora un altro esercizio dopo di questo, sì, è quello del sorriso interiore, cioè a occhi chiusi sempre, magari proprio dopo che abbiamo ascoltato il corpo, provare a sorridere come se sorridessimo a noi stessi. Già mi viene un po' da sorridere. Così. E sentire che cosa accade. Ci accorgeremo che nel momento in cui il nostro volto inizia a sorridere, sì, dentro di noi vengono liberate delle emozioni positive. Ci sono anche delle prove scientifiche, cioè si liberano le endorfine, che sono gli ormoni della felicità. Quindi queste endorfine vengono liberate da varie situazioni, alcune delle quali possiamo crearle noi stessi. Quindi cominciamo con questi due esercizi intanto, cioè stare seduti, occhi chiusi, ci ascoltiamo il corpo dai piedi alla testa, poi cominciamo a fare questa sorta di sorriso interiore, facciamo gli esercizi, ci risentiamo la settimana prossima e facciamo, verifichiamo. Boh, benissimo, com'è andata? Benissimo. Perché 5 invece minuti voi, al giorno. Bastano 5 minuti al giorno. Professore, bastano 5 minuti al giorno per essere più felici? Guardi, io sono sempre molto realistico, quindi so che se ai radioascoltatori chiediamo di più, non lo fanno. Non lo fanno, ecco. 5 minuti li fanno. È come a scuola con i bambini. Per essere un pochino più felici. Quando sentiranno che l'effetto è così positivo, poi saranno loro stessi a portarlo da 5 a 10 minuti. Grazie professor Kelly, mi raccomando agli ascoltatori all'ascolto, fatelo perché è vero, cioè queste cose sono state misurate, sono cose scientifiche, quindi bisogna provarle prima di riderci sopra dicendo ma che fesserie, non è così, sono cose serissime che ci fanno star meglio. 800 24 0024, adesso facciamo la borsa, torniamo subito dopo. And now, the good news! Il forno Galletti di Grosseto vende il pane del giorno prima a metà prezzo. In negozio è comparso un cartello che recita: contro la crisi, il pane del giorno prima, sconto al 50%. L'iniziativa ha avuto subito un grande successo. Rispetto ai problemi dell'Italia è una briciola, ma una briciola alla volta si esce dalla crisi, vero Pollicino? Si può fare l'attualità anche d'estate. E ci sono le dichiarazioni di Matteo Renzi da una festa del PD, interviene sulla situazione, dice adesso tocca a noi, è il nostro momento, il governo duri se fa le cose, caro Letta non cercare alibi. Berlusconi, le sentenze si rispettano. Vediamo se troviamo la notizia completa. Io non condivido ma rispetto Bondi, Brunetta, Schifani e Santanchè, ma il compito del PD è salvare l'Italia. Le sentenze, ha detto Renzi, si rispettano, la legge è uguale per tutti. Così Renzi ha commentato la sentenza Mediaset. Avevamo detto ascoltatori, allora iniziamo subito. Giuseppe dalla provincia di Trento, buonasera. Buonasera. Abbassi la radio che sennò sentiamo il ritorno. Sente? Sì, abbassi o spenga la radio. Sì, sì. Ascolti, io sono un piccolo imprenditore, sono un agente di commercio e adesso alle ore 7:30 di sera sono qui in un'officina che ha 10 dipendenti con il titolare ancora qui che aspetta perché devo finire un lavoro. Quello che io voglio dire è che i politici, i giornalisti, chi vive all'interno degli uffici non si rende conto dell'economia reale. Cioè io ho 2.600 clienti, le garantisco che 2.000 la pensano esattamente come me. Noi siamo stufi di vedere le ingiustizie, di vedere le oppressioni, ma per noi l'ingiustizia è anche che se il zingaro viene in casa tua a rubare e tu gli dai 2 ceffoni, tu vai in galera e devi risarcirlo. Questa cosa qui succede solo in Italia. Ma vogliamo capirlo che quando noi saremo morti non ci saranno più soldi per nessuno. Cioè, le faccio un esempio banale. Allora, io immagino che uno statale timbra il cartellino che per me dovrebbe essere un servitore dello Stato, quindi servitore, noi produciamo, noi piccole e medie imprese produciamo, gli statali ci fanno da servizio, ok? Noi ora siamo diventati gli schiavi del pubblico impiego. Le faccio un esempio. Sì, però allora, veloce perché... Sì, velocissimo, guardi, sì. Io immagino che uno timbra il cartellino e non va a lavorare, arriva il ministro e dice lei, licenziati domani mattina. Magari. Non c'è nessun problema, vanno a fare l'imbianchino, vanno a fare qualcos'altro. Sì. Poi subentrano gli studiosi, quelli che hanno studiato, e allora cominciano a dire dobbiamo cambiare gli oblatori per impedire. Poi arriva quello ancora più intelligente e dice ma se noi l'assenteismo ci costa 10 milioni di euro, se noi assumiamo delle persone per controllare gli assenteisti, sì, ne spendiamo 5 ma ne risparmiamo altri 5. Ma capisce che stiamo andando al fallimento? Giuseppe, grazie, buona serata. Lei ha fatto un discorso un po' così, non è che l'abbiamo seguito benissimo. Ci ha raggiunto Gabardini, Carlo? Ciao. Buonasera. Buonasera. Dal set di Varese, ti abbiamo raggiunto, esatto, stavi marcando sono visita. A Castelvecchiana. In una pausa... In provincia, in provincia di Varese, sì, e sto iniziando il mio stage da inviato radiofonico a questo punto. Ecco, vediamo un po' se c'è qualche notizia da raccontare. Intanto, intanto Deborah Caprioglio c'è? C'è, ma è sul set in questo momento. Ah, ecco. Ma non eravate marito e moglie nel film? Com'è che lei è sul set e tu no? Perché stiamo girando una scena dentro in un teatro, siamo, sì, seduti uno di fianco all'altro, in realtà, ma io ho finto di avere un malore e sono uscito per... per stare con noi. Vediamo se, esatto, riusciamo a fare un po' di interazione con gli ascoltatori, che magari avevano anche piacere a risentirti anche stasera. Ma come sta andando la trasmissione? Io sono... mi mancate moltissimo, volevo dire. Ecco. Beh, non so, è andato tutto bene, però certo in tono un po' così, un po' minore, ci sei mancato sicuramente. Urbano da Roma, buonasera. Salve, buonasera. Eccoci qua. Volevo intervenire a proposito appunto dell'intervento sui rifiuti del sindaco Almano. Quello, sì, che molto spesso non viene detto è che il problema dei rifiuti di Roma, così com'è, Non lo si vuole risolvere. Perché? Perché così com'è vale circa 200 milioni l'anno solo per il conferimento in discarica. Roma, cosa intende? Cosa sono questi 200 milioni l'anno? Dunque, allora, Urbano, Roma produce 5.000 tonnellate al giorno di rifiuti, sì, giusto? Ogni tonnellata vale, conferita in una discarica, sì, 100 euro al fortunato possessore della discarica. Sì. Quindi quello che sta succedendo a Roma non è il tentativo di risolvere un problema facendo come si fa in Europa, cioè riduzione differenziata e riciclo. Cioè lei dice è un affare per chi vince la gestione della discarica, perché si guadagna bene, però poi bisogna anche rispettare le norme di legge. È uno dei business migliori, sì, al mondo. Se io vedo, ho un'azienda biologica, e la mia azienda biologica più o meno galleggia, se io avessi una discarica guadagnerei solo per il conferimento, cioè lei dice, 200 milioni l'anno, quindi non si vuole... C'è un disincentivo, Urbano, lei dice c'è un disincentivo perché... No, c'è una guerra, a fare la raccolta differenziata. Il business è diverso, è il business che ha fatto ricche molte, diciamo, chiamiamole famiglie in Campania. Le discariche in Campania chi le gestiva? Chi è che si arricchiva? Lei lo sa questo, no? La camorra. Questo è uno dei business preferiti perché c'è un basso investimento e un'enorme resa. Va bene, Urbano, però questo vale da tutte le parti. Però... Grazie, Urbano. Questo però vale da tutte le parti. Ci sono però posti dove la questione viene risolta e posti dove invece non viene risolta, anche se le regole sono le stesse per tutti. E a Roma è una di queste situazioni. Cosa mi indicano dalla regia? Non capisco. Non vi sento? Ah, ecco, abbiamo il prossimo ospite, sì. Gabardini, la tua finestra si è già chiusa perché tu hai la regola d'ingaggio che non puoi parlare con gli ospiti. Come facciamo? Abbiamo già l'ospite. Esatto. Giusto, ma io ascolto un pochino e poi probabilmente mi stanno chiamando verso l'interno e quindi probabilmente vi devo anche lasciare. Però ascolto volentieri. Perché o te o il senatore Michele Giarrusso del Movimento 5 Stelle. Buonasera Giarrusso. Io voi, senatore. Ecco, allora il senatore, va bene. Gabardini, se mai ti sentiamo più tardi. Molto volentieri. Senatore, buonasera, benvenuto. Scusi il caos iniziale, ma insomma sono così le regole della diretta. Sì, la sento poco però, perché essendo in aula qua. Ecco, appunto, noi ci interessava questo perché... Un ritorno. Sì. Lei adesso si trova in aula, ma quello per cui l'abbiamo chiamata è questo. Lei si trova in aula per la giunta, per le immunità o per i lavori parlamentari ordinari? Perché no, oggi siamo nei lavori parlamentari, ecco, ordinari. Quindi abbiamo anticipato i tempi perché oggi si riunisce la giunta per le immunità che deve affrontare tra le altre il caso dell'incandidabilità e quindi della possibile decadenza di Berlusconi Silvio a senatore, però questa riunione quando avverrà? Ecco, questa è una buona domanda perché siamo tutti quanti qua in aula, sì, e ad apertura della seduta nel pomeriggio il Presidente aveva accennato una cosa abbastanza preoccupante. Cioè che avrebbe previsto lavori ad oltranza oltre l'orario previsto originariamente. Ma lei teme per la convocazione a questo punto? Perché temo moltissimo per la convocazione. Noi abbiamo già presentato, sì, sabato scorso una richiesta di convocazione urgente. Sapevamo che la sentenza è stata notificata dalla Cassazione venerdì sera al Senato. Sì. Quindi noi stiamo ho chiesto di attivare l'urgenza, la procedura ex articolo 3, che specifica due volte che questa procedura deve essere attivata immediatamente. Siccome non c'è dubbio sul significato di immediatamente, no? Abbiamo chiesto al Presidente, sia del Senato che della Giunta, di convocarlo all'urgenza lunedì, la Giunta, e iniziare la procedura. Noi entro venerdì potevamo avere già un voto. Ma noi l'avevamo sentito, tra l'altro, il Presidente della Giunta, Stefano Di Sell. Come? Noi l'avevamo intervistato, il Presidente della Giunta per le Immunità, Stefano Di Sell, e lui ci aveva assicurato che sarebbe stata convocata proprio per oggi, come previsto, diciamo, da calendario. No, è già stata prevista la riunione di oggi. Non ha voluto anticiparla a lunedì. Ma chi è, secondo lei, che sta remando contro? C'è qualcuno che sta... quelli del PDL stanno facendo di tutto per rimandare questa cosa? Guardi, quelli del PDL fanno ciò che gli viene detto di fare dal proprio capo, no? Sono stati tutti nominati da un imprenditore che è padrone di un partito e quindi famoso partito azienda, per cui sta a disposizione e loro fanno il loro lavoro. Sugli altri è sorprendente, vedremo cosa faranno. Sembrerebbero orientati a, però io guardo. Sia meno criptico, però, scusi, Giarrusso, sia. Sì. Scusi, Giarrusso, sia un po' meno criptico. Al momento dovremmo essere in giunta, ma non ci siamo. Ecco, ma quindi è anche colpa di quelli del PD, secondo lei? Come dice? È anche colpa di quelli del PD, secondo lei, perché non siamo ancora in giunta? Io le posso dire che il Movimento 5 Stelle ha fatto tutto il possibile per fare convocare d'urgenza la giunta e valutare la questione. Ma non sarà banalmente... Agli altri assumersi, sì, le proprie responsabilità. Ma non sarà banalmente perché c'è lavoro in aula al Senato e quindi è stata rimandata più tardi questa giunta? Guardi, questa non è una situazione banale, lei lo sa benissimo, quindi non credo che poteva essere affrontata come qualunque altra cosa. Senta, perché puntualmente ritorna questo tema di una vostra apertura al Partito Democratico, che poi viene regolarmente smentita, eccetera eccetera. È successo anche questa volta, poi è stata l'intervista di Grillo che ha chiuso di nuovo. Devo dire, sì, sul punto devo dire una cosa ben precisa: noi dobbiamo intenderci, i partiti vanno in Parlamento mentendo agli elettori sul proprio programma. Perché dico mentendo? Perché arrivati in Parlamento il primo obiettivo è andare al governo, quindi prendono il programma, quello per cui sono stati eletti, e lo buttano. Facciamo l'esempio: il PD aveva detto in campagna elettorale che avrebbe cancellato gli F-35, non hanno votato nemmeno la loro mozione, una mozione presentata dai propri parlamentari, non l'abbiamo votata noi, quindi immagini. Che cosa succede? Succede semplicemente che il primo obiettivo dei partiti è andare al governo, andare al potere. L'obiettivo del Movimento 5 Stelle è quello che gli hanno dato i cittadini, cioè di portare a compimento un programma. Quindi noi cerchiamo consenso e appoggio per un programma. Ma non lo trovate mai questo consenso? Ci sta a lavorare, perché non vogliono attuare un programma che i cittadini condividono. Cioè, se mi spieghi com'è che un paese prossimo al fallimento va a fare una guerra in Afghanistan a credito, senza avere soldi. Però comunque persone di buon senso hanno fatto i canadesi, hanno detto non ci sono i soldi, costa troppo, usciamo dal programma. Noi però questa vostra strategia, Giarrusso, è una strategia che finora non ha funzionato, cioè non avete fatto alleanze con nessuno, non avete non è di fare alleanze. Non avete potuto noi votare niente perché siete in minoranza sul programma, sì, non sul potere. Cioè, gli altri si presentano dicendo dateci il voto, dateci la fiducia e fateci lavorare, magari forse vi diamo qua qualche elemosina. Noi non chiediamo posti, non chiediamo ministeri, chiediamo l'attuazione del nostro programma. Non è una cosa. No, ma questo è chiaro, lo dite fin dall'inizio e questo si è capito. Però, per esempio, anche sulla vicenda di Napolitano, che Grillo ha detto Napolitano si deve far da parte. Però se non fosse per Napolitano, mi scusi Giarrusso, mi faccia finire la domanda, Giarrusso, un attimo, Giarrusso, mi faccia finire la domanda. Se non fosse per Napolitano, dove saremmo adesso? Cioè, non ci sarebbe, se fosse per voi sareste in minoranza e non avreste fatto nessun governo. Non saremmo con un ministro all'interno, si ha la responsabilità del rapimento di una donna innocente, di una bambina di 6 anni, ed è ancora là che dovrebbe garantire la sicurezza degli italiani. Non so cosa possa mai garantire, è responsabilità di Napolitano. Ah, quello che le voglio dire è che noi abbiamo un Presidente della Repubblica che ha smesso di fare il Presidente della Repubblica, cioè il garante della Costituzione, è sceso in campo come protagonista politico, travalicando e travisando il suo ruolo, e sta appoggiando una maggioranza e un governo dove saremo sicuramente in un posto migliore, dove magari avremmo potuto approvare una nuova legge elettorale, una legge che finalmente toglieva il finanziamento pubblico ai partiti, magari i nostri ragazzi non morivano in Afghanistan in una guerra pagata a credito, magari invece di chiudere scuole, ospedali, non dare servizi, non compravamo gli F-35, tante cose che i cittadini vogliono. Ringrazieremo il napoletano anche di queste cose. Vabbè, Gianrusso, fra l'altro sentiamo il rumore dell'aula di sottofondo, questa intervista è un po' complicata. Io speravo di trovarla invece. Io sento la mia voce, purtroppo. Sì, io speravo di trovarla invece con la convocazione della giunta per poterci dare qualche notizia su questa cosa qua. Ma a questo punto slitta stasera a domani? Io non ho capito questa cosa qua. Quando la fate sta giunta? Io vedo il presidente qua in aula, nessuno che si muove, quindi da giusto momento ancora non è stata convocata. Ma e lei non ha notizie, cioè lei fa parte della giunta e non ha... questa è una cosa surreale, è un momento surreale. No, è surreale, certo, perché se l'aula non c'è, se lavori noi non ci allontaniamo. Quindi nelle sue previsioni potrebbe avvenire anche, potrebbe slittare a domani tranquillamente. Ci vuole la convocazione. È possibile, tutto è possibile in questo paese. Perché fino ad ora la convocazione è stata mantenuta e prevedeva, c'era un orario? Sì, alle 20. Al Palazzo San Macuto. Quindi siamo ancora in tempo. No, San Macuto, adesso accanto al Palazzo Madama. Sì. Teoricamente siamo ancora in tempo, se qualcosa si muovesse, se mancavano 10 minuti alle 8. Vabbè, non facciamo in tempo a risentirci dopo, perché noi alle 8:30 chiudiamo, semmai ci sentiamo domani per una valutazione ex post. Con grande piacere. Grazie, buona serata, buon lavoro. Buona serata e buon lavoro, grazie. Il senatore del Movimento 5 Stelle Michele Giarrusso, a ridosso della convocazione della giunta che dovrebbe votare sulla decadenza di Silvio Berlusconi da senatore, ma questa cosa, stando a quello che ci ha detto Giarrusso, non avviene, non avverrà, potrebbe slittare, potrebbe però anche avvenire a sorpresa tra pochi minuti, staremo a vedere. Gabardini non c'è, è tornato sul set, riprendiamo con gli ascoltatori. Franco da Bari, buonasera. Franco, e allora non ti mati, magari sta parlando con Franco, con qualcun altro, quindi forse è il caso di aspettare. Franco, oh, sono qui. Tocca a lei, prego. Allora, alcune cose rapidissime. Sì. Uno, stavo lavorando ancora, a parte il fatto che io ho 72 anni, continuo a lavorare perché alla tirare, ok? Allora, ho sempre fatto artigiano. Allora, mi sono chiesto e chiedo. Mentre stavo lavorando, va bene, nella mia piccola ditta artigiana con i miei figli. Di che cosa si occupa la sua ditta, Franco? Lavoriamo tubo a freddo e stampiamo plastica. Allora, a questo punto, va bene, io sono in pensione, va bene, però continuo ad aiutare i miei figli, perché penso di aver fatto una cosa, non so se ho fatto una cosa buona o cattiva, a passargli l'azienda, va bene. Vabbè, lasciamo perdere, sono problemi nostri. Però ho ascoltato, va bene. Ho ascoltato l'intervento della Mussolini, non so, senatrice, tutta questa gente qui, va bene, sì. che ha fatto la parodia, va bene, in napoletano, va bene, per quanto riguarda il giudice lì che ha sentenziato la... Sì, Esposito, la Mussolini ha parlato in napoletano leggendo l'intervista di Esposito. Quindi... Ma io mi chiedo, vabbè, ad alta voce... Ma io devo lavorare per pagare le tasse, per pagare questa gente incapace qui per fare queste sceneggiate? Ce lo chiediamo anche noi stasera, in effetti, sì, Franco. Ma in che paese ci troviamo noi? Ma in che paese stiamo vivendo? Va bene. Ma noi siamo veramente ridicoli, siamo ridicoli. Poi vabbè, chiudiamo questo argomento, apriamone un altro velocemente, vabbè. Allora, devono aumentare l'IVA, devono aumentare, vabbè, tolgono l'IMU, va bene, poi ovviamente i comuni aumentano altre tasse perché tanto qui i soldi ci vogliono, vabbè, lasciamo fare. Però io direi una cosa, ma io sono un artigiano, va bene, non sono andato, non sono molto acculturato, va bene, vabbè, ho fatto a 14 anni, ho cominciato a lavorare. Allora, a questo punto, va bene, io secondo il mio punto di vista, va bene, pagare tutti, pagare meno, cosa significa? Significa, va bene, ridurre l'IVA, va bene, ridurre... Franco, lei ha detto mille volte va bene, però basta, questo intervento non va più da nessuna parte. Abbiamo capito che avrebbe altre cose da dire, ma sarà per un'altra volta. Giuliana da Piacenza, buonasera. Sì, buonasera, grazie per darmi l'occasione. Comunque, io volevo intervenire sulla inopportunità, diciamo, del giudice Esposito di esternare, diciamo, anche in via confidenziale, proprio così, a un giornale, no? Un giudice è una scomoda situazione di privilegio, nel senso che... ha capito, deve, non dico dare l'esempio, però avere un comportamento consono, diciamo, a una situazione grave, ha capito, che lui deve andare ad analizzare comunque. Allora, il fatto che la Mussolini abbia esagerato, diciamo, parlando in vernacolo, pronto? Sì, sì, la sentiamo benissimo. Ecco, secondo me, cioè voglio dire, voleva un pochino... Voleva sottolineare questa cosa qua. Sottolineare il fatto, ecco, di questa... Però mi scusi Giuliana, sulla prima parte della sua argomentazione sono perfettamente d'accordo. L'intervista era inopportuna, il giudice fra l'altro che secondo me neanche pensava che sarebbe uscita in quel modo, poi che prima ha negato, non sapeva forse che c'era la registrazione, è una persona anziana, non so cos'è successo, un pastrocchio. Però aggiungere questo teatrino... a cosa serve? Cioè poi ai fini pratici questa cosa che ha fatto la Mussolini dove ci porta? A cosa serve? Le no, domande? Questo non ci serve. Perché? Perché voglio dire, a un certo punto io non sono d'accordo sul comportamento di un magistrato in questo modo, però ridicolizzarli è ancora peggio, perché ridicolizzare significa non andare al nocciolo del problema, nel senso che se c'è un vero problema nella magistratura, ha capito, di carattere deontologico eccetera, bisogna trattarlo seriamente, non ridicolizzando, perché il giudice, voglio dire, che è stato troppo salottiero, indipendentemente dal fatto che potesse essere a contranello, diciamo, registrato o meno, però, voglio dire, deve mantenere un linguaggio, ha capito, soprattutto se parla di una sentenza che è ancora... Va bene Giuliana, dire. Abbiamo capito, deve mantenere un linguaggio come? Non doveva no, proprio farla l'intervista. Non confidenziale. Era più semplice. Cioè no, tecnico. No, ma non doveva farla questa intervista, è molto più semplice. Non è questione di linguaggio confidenziale o no, così si fanno spesso le interviste, non andava fatta. Era molto più semplice, si evitava pure lui il procedimento del CSM. Valeriano dalla provincia di Brescia, buonasera. Prego. Senta, io volevo intervenire sulla ieri sera sulla questione del sindacato di polizia che aveva richiesto la rimozione della statua intitolata a Carlo Giuliani. Sì. Ecco, quello che mi ha sorpreso è sentire la sua, di lei, patetica difesa di questo ragazzo che, per carità, un ragazzo è morto e non è mai una cosa bella. Però dire, come faceva lei, che non era armato, quando tutti sappiamo che stava... Sì, aveva come si chiama, l'estintore. Io ho detto che era disarmato, nel senso che non era andato lì, non era un terrorista Carlo Giuliani, era un ragazzo su cui probabilmente c'erano luci e ombre, si era spinto molto oltre quello che hanno fatto tutti gli altri manifestanti, sì, con un passamontagna e un estintore. No, no. Però... non era quello che l'hanno descritto, faceva volontariato, era un ragazzo, non era una persona cattiva, non era sicuramente un terrorista, ed è morto in quelle circostanze lì. Quindi... vogliamo prenderci per i fondelli e fare come che le lapide nei cimiteri, che sono tutti bravi? No, no, ma la mia non era una difesa, io ho chiesto ai rappresentanti del COISP perché volevano togliere questa lapide, che poi non è neanche un monumento, è una lapide. Abbiamo preso atto, io ho detto un po' la mia posizione, nel senso che ho difeso il fatto... La posizione, se mi permette, sì. Si capisce quale sia, insomma, sì. Traspare molto bene la sua contentezza per la condanna di Berlusconi, eccetera. Ma questo però, lo dice lei, insomma. Cerchiamo di avere un buon umore, certo. A prescindere, come direbbe il professor Kelly. Grazie Valeriano. Giulio da Bari, buonasera. Oh, buonasera, innanzitutto... Cioè il professor Kelly ci invita ad essere allegri e felici a prescindere dagli eventi. Questo è quello che cerco di fare anch'io, forse, quando faccio questo programma, di avere un tono, un umore positivo, anche se c'è la sentenza di Berlusconi, la Cassazione. Ma non è che sono contento per quello, ci fossero altri eventi sarebbe la stessa cosa. Prego Giulio. Ah sì, dunque, no, dicevo che apprezzo molto il programma, sia nella versione pacata e puntuale sua e sia nella versione irriverente e dissacrante di Cruciani, due facce della stessa medaglia se vogliamo. No, io ho chiamato per spendere due parole sull'importanza di fare qualcosa per conseguire la felicità. E devo dire, io me ne occupo da tantissimi anni con alcuni amici, alcuni colleghi, sì. E inizia nei prossimi giorni qui a Bari un ciclo, un seminario di conversazione e dibattiti sulla felicità, che è totalmente gratuito, quindi con il suo permesso volevo magari dare, se le ritiene. Facciamo l'invito, un momento proloco, da Bari. E gli ascoltatrici della Zanzara che vogliono approfittarne perché è gratuito, e quindi due parole sulla felicità. Ma dove dobbiamo venire se siamo a Bari e siamo interessati? Diamo l'invito proprio, c'è un sito, c'è qualcosa, Giulio? No, niente. Nulla. È una cosa per iniziati, cioè solo voi lo potete sapere. È un'iniziativa privata. Sì. Vabbè, ma allora perché ce l'ha detto? Se è una cosa privata dove non si può aderire, perché ce l'ha detto? Farci venire invidia? No, intendo per privata. Su internet significa... Dalla impasto a chiunque. Dobbiamo fermarci per la pausa, Giulio. Se vuole resti con noi, lo sentiamo più tardi. Adesso good news, pausa, poi sentiremo i titoli dei telegiornali. 800 24 00 24. And now the good news. www.nonevado.it è un sito dove ognuno può segnalare attività economiche, professionisti e commercianti onesti che pagano le tasse. L'idea di Ernesto Puddu è che per raggiungere la virtù fiscale, oltre a punire gli evasori, bisogna incentivare gli onesti. Quindi niente caccia alle streghe. Casomai la caccia allo scontrino, questo sconosciuto. Si può fare l'attualità anche d'estate. Eccoci qua, allora abbiamo Giulio da Bari. Se vuole darci l'opportunità anche a noi di venire al vostro seminario privato sulla felicità a Bari, oppure se ci conferma che è una cosa a porte chiuse. Giulio? No, è aperto, certo, fino a esaurimento di posti, a chi ritiene di voler investigare sulla felicità. Ma come si chiama questo seminario? La ricerca della felicità e il perfezionamento interiore. Va bene, in 30 secondi per chiudere, così poi sentiamo i titoli del TG1. Giulio? Sì, posso dare il numero di telefono per chi è interessato, ripeto, è un'iniziativa gratuita. Sì. Il numero è il 328 46 51 389. Va bene, e questo l'abbiamo ripeto, detto. Ripeto, 328 46 51 389. E felicità significa anche... imparare a aprire la mente, perché è molto importante che si interagisca bene con gli altri. Quindi, se non si è dotati anche di un buon carattere, di un certo equilibrio, se non si possiede una mentalità aperta, un modo di pensare costruttivo ed efficiente, che aiuti a smussare, appunto, a pianare la maggior parte delle difficoltà, a ben interagire con gli altri. Va bene, Giulio, grazie per il suo invito, per il suo appello, lo accogliamo volentieri, l'abbiamo fatto anche noi prima del 19:20 con il professore Rico Kelly, lo faremo ancora. Titoli del TG1. Epifani, niente sconti, Berlusconi faccia un passo indietro, l'ira del PDL, così il segretario del PD indebolisce il governo. Matteo Renzi rompe il silenzio, le sentenze si rispettano, tifo per il governo Letta, ma deve fare non durare, io non sono un alibi. Il premier Letta incontra i vertici Fiat, in Italia si può fare industria, il nostro governo sta lavorando proprio per questo. L'intervista del giudice della sentenza Mediaset, la prima commissione del CSM deciderà se aprire un fascicolo o archiviare. Caso Snowden, Obama cancella l'incontro con Putin previsto a settembre, Mosca delusa, l'America non vuole rapporti alla pari. Pusher morto in caserma dopo l'arresto, tre carabinieri indagati per omicidio colposo, il PM, lo Stato si faccia carico della morte. Tutto esaurito a Firenze per Roberto Benigni, che con il 34esimo canto dell'Inferno di Dante ha chiuso gli incontri dedicati alle letture dantesche. Non sono mancate battute sull'attualità e le proteste di Brunetta per un passaggio sulla manifestazione del PDL. Oh, la Rai non fa titoli sulla questione Mission, però ci sono sviluppi sui giornali e anche un'agenzia di oggi con una dichiarazione della Rai a proposito di questa reality che dovrebbe vedere dei VIP impegnati, tra virgolette, in zone dove ci sono rifugiati nel terzo mondo. Così per passare una giornata insieme ai volontari della Croce Rossa e di altre organizzazioni di volontariato, una internazionale, un reality che è stato messo insomma in croce, nel mirino proprio di altre organizzazioni internazionali, perché dicono non si può sfruttare il dolore della gente, vero, per fare una fiction televisiva. E allora la Rai ha scritto: il servizio pubblico saprà muoversi nel rispetto della dignità delle persone, dei rifugiati e della sensibilità dell'opinione pubblica. Può darsi che qualcosa cambi in quello che è previsto per questo reality, che si chiamerà Mission, di cui non si sa ancora, però in realtà poi se andrà in onda oppure no, staremo a vedere se la Rai farà una retromarcia dopo questa polemica che è scoppiata oppure no. Riprendiamo con i vostri interventi. Giorgio da Genova, buonasera. Buonasera. Eccoci. Ma guarda, io volevo dire che quando sento parlare io tendenzialmente, beh, non vado a votare da molti anni, però tendenzialmente sarei anche simpatizzante per alcune idee di destra, però quando sento in televisione gente come la Santacchera, Biancofiore o altri che dicono, anche la Gelmini oggi ho sentito che dice, che cioè legittimano Berlusconi dicendo perché ha 10 milioni di voti o perché ha pagato tante tasse, ma è un discorso, cioè da una persona che rappresenta gli italiani, lo Stato, che dire una cosa così è una cosa che non concepisco, perché comunque cambia, se uno ha 10 milioni di voti ma è un disonesto o ha fatto un reato, cioè così fa a sostenere un ragionamento del genere, oppure dire se ha pagato anche tante tasse ma se ha sbagliato e ha frodato è come tutti, come io se prendo una multa o non pago le tasse mi fanno, o non faccio uno scontrino mi fanno subito una multa, non è perché ho pagato sempre le tasse che allora questo giustifica il fatto che. Capisci cosa voglio dire? Cioè, sono cose. Grazie che Giorgio, veramente. È chiarissimo quello che lei vuole dire. Allora le facciamo sentire una delle dichiarazioni forse a cui lei faceva riferimento, quella della Gelmini, Maria Stella Gelmini, sentiamo. Se voi voterete la decadenza di Berlusconi, ecco, sarà un problema vostro, perché Berlusconi come Grillo farà politica nel paese fuori dal Parlamento. Non potete per sentenza ridurre o privare Berlusconi di una leadership che non ha conferito la puppato il PD, l'hanno conferita milioni di italiani. Lores da Vicenza, buonasera. Lores, ci sente? Pronto? Sì, Lores, uomo o donna? Lores, nome femminile? Femmina. Buonasera. Mi scusi il dubbio, ma non conoscevo questo nome. Prego, Lores. Allora. È sveglia, Lores, stava riposando? Sì. Prego? No, dico, si stava riposando, me l'ha attesa già da un po', perché la sentivo un po'. Sì, no, mi stavo rilassando sentendola e spero che durante la mia esposizione, se c'è qualcosa che non capisce, me lo faccia capire subito, non dopo quando metto giù il telefono e lei mi dice che ero confusa o l'ha capito poco. Perché vede, infastidisce questo modo di rispondere a quelli che chiamano al telefono. Dovrebbe essere un po' più cortese, non tutti abbiamo la laurea. E non tutti sappiamo parlare al telefono, alla radio, sì, o alla televisione. Cioè non è che non si possono commentare le telefonate di ascoltatori, sì, uno entra in una trasmissione. Guardi, vedi, artisti si nasce, sì. Cruciani ci faceva incazzare da morire. Io sono una che ascolta la radio molto spesso e qualche volta dovevo anche spegnere perché mi faceva incazzare veramente tanto. Lei invece ha il potere di infastidire, perché sembra gentile ma non è gentile. Sembra educato più di Cruciani, ma non lo è. Breaking news. Ai mondiali di scherma di Budapest è oro nel fioretto femminile per l'azzurra Arianna Errigo, che in finale ha battuto la tedesca Golubinski per 15-8, e bronzo per l'altra azzurra Elisa Di Francesca. Tutti i particolari nel GR24 delle 21. Grazie a Dario Ricci per questa notizia di sport. Signora Lores, non era fatta apposta, era una notizia che è subentrata così, ha sentito? Sì, l'ho capito. Poi noi abbiamo bisogno anche di poter esprimere la nostra rabbia, il nostro malcontento. Ci sono altre trasmissioni che trattano di questo. Ma scusi tanto un po', lavoriamo un po' tutti, eh? Abbiamo anche noi i nostri tempi. Non è che Lores, però il tempo passa, lei ha fatto il suo intervento su, diciamo, di metodo. No, c'è anche qualcosa di contenuto? Mi fa dire qualcos'altro? Sì, allora, Io posso dire una cosa, mi dissocio assolutamente da Tosi. Io non chiederò mai scusa alla Kenge. Mm-hmm. La Kenge dovrebbe dimettersi, è un ministero inutile e costoso, è una persona arrogante, sopra le righe, non doveva certo... Perché arrogante? Perché fin qua potevo perché seguirla, arrogante. Perché non mi pare proprio che sia... Cioè, magari un ministero inutile può darsi, uno non vuol chiedere scusa, può darsi, tanto. Ma perché arrogante la Kenge? Mi scusi tanto. Allora, ha ricevuto le scuse da Calderoli alla Camera. Sì. È stata invitata dalla Lega, guardi che io non voto Lega, voto Veneto Stato. No, ma non sono si preoccupi, più, sì. No, gli ho chiesto ancora... solo perché secondo lei, ecco, è arrogante. Allora, è una persona di un'arroganza. Ha incominciato il suo ministero, ha aperto il suo ministero nuovo e che non serve a niente, parlando subito dei diritti degli extracomunitari. Siamo un paese invaso. Siamo un paese invaso da persone che vengono qui e dobbiamo assisterli dalla Z quando abbiamo persone. Però che scusi, la domanda resta, perché è arrogante? Perché arrogante? Perché questo ha a che fare con il governo che ha deciso questo ministero e lei non è d'accordo ed è legittimo. Però perché lei, la Kienge, che mi sembra così mite, lei dice che è arrogante? Ma la vede quando parla, la rabbia repressa che ha, la vede, è capace lei di leggere nei volti delle persone? Non la so, vede vabbè. La rabbia repressa? No, che io ha. Non la e vedo, lei la vede, va bene. E una io questione, la vedo. Allora, mi scusi un'altra cosa. Sì. Io non è che sono molto... Non sono molto preparata nella vita della signora Kienge. Comunque, lei so che è arrivata qui con un gommone. So che ha una laurea. È arrivata ministro. E lei parla di razzismo. Ma allora, non è lei la prima che dovrebbe dire che le persone che vengono qui con la volontà di fare... ci arrivano dove vogliono. Va bene, non grazie. Non è una contraddizione evidente. Grazie Lores, grazie. Andiamo a Genova. Monica, buonasera. Buonasera. Volevo esprimerle la mia solidarietà per la trasmissione di stasera. A me? Perché stasera ci sono stati tanti interventi di persone con la verità in tasca, come tante altre sere. Tutti noi che telefoniamo sappiamo di essere dalla parte della ragione, ci permettiamo di giudicare qualunque cosa, dalla politica internazionale ai modi di condurre le trasmissioni radiofoniche. Veramente, con tutto il cuore, erano due giorni che non ascoltavo la trasmissione, sono stata via due giorni per lavoro. Stasera mi ha aperto il cuore il professor Cayley, sono un pochino più felice anziché essere arrabbiata per quello che ho visto. Ha già fatto gli esercizi? Lei? Ma no, ho riso come una pazza, mi ha messo di ottimo umore, è uno dei più grandi nemici dell'umanità, il professor che gli ha detto un così, nemico dell'umanità addirittura, perché? Ma sì, ma come si fa? Io per la carità ammiro la sua buona volontà, ma la consapevolezza, diventare i migliori amici di se stessi, c'è un'editoria stracolma di queste cose e nessuno che la compra. Perché le persone preferiscono comprare... Guardi, comprare i libri non li compra più nessuno, questo sì, ecco, questo, ma non solo quelli, anche gli altri libri, proprio una crisi nera. Ma qualunque cosa, io invece sono stata in compagnia, nei pochi minuti liberi di questi due giorni di viaggio di lavoro, di un bellissimo libro che mi ha fatto sorridere. Ci dia questo bel consiglio di lettura, di cosa si tratta? Vitali, la figlia del podestà. Va bene, Divertente. Non mi ha fatto pensare a nulla di ciò che sta capitando in Italia, a nessuno che abbia un'opinione sempre così assolutamente vera, reale. Non ho capito però perché ce l'è presa col professor Kelly, nemico dell'umanità, cioè non è tra l'altro uno che ha la verità in tasca, ha dato la sua opinione. Vado un pochino a farsi un giro sul sito. Sì, vabbè, hanno la loro versione, l'omeopatia, Boiron, la Oliversity, va bene. Che in realtà... Guardi, è un punto di vista tra i tanti, ne diamo tanti. Mio, sì, per la carità, ho detto con tutta umiltà, certo è, che qualche cosa di più semplice, che alla portata di tutti, sarebbe una buona notizia, anziché la breaking news con una medaglia d'oro nella scherma, sarebbe stata una breaking news con una notizia dal Parlamento che si fosse trovato d'accordo su un qualche cosa che avrebbe migliorato. Grazie Monica, però sa, non è che si possono fare a comando le breaking news, a lei non le va bene niente, neanche la medaglia d'oro, che comunque era una buona notizia per gli amanti dello sport, mi rendo conto, ci sono cose più importanti, però insomma. Mauro da Mantova, buonasera. Salve. Eccoci qua. È importantissimo sapere se si vince la medaglia d'oro. Dopo c'è anche c'è gente come me, che ha 54 anni, disabile, da 2 anni e mezzo non fa un cavolo, quello è lo stesso. Non fa niente, l'importante è che ci siano le medaglie d'oro. E lei è un po' anche... ironico, lei è un po' ironico. Le... No, ironico, sono realista. La realtà è questa. Cioè, non inventiamoci le Santa Lucia, Babbo Natale, la Befana. La realtà sono queste. Allora, se comandi dice la crisi è finita, ma perché prende per il culo la gente? Ma da dove è uscito? Da Marte, da Venere, da Giove, da dove è venuto? Vabbè, forse la chiave di lettura è in un altro modo. Allora, considerando che si è fatto saltare Berlusconi, si è ucciso Gheddafi, si è messo Monti, che è il cognato di De Benedetti, e riceveva il buco del Monte dei Paschi di Siena della Banca Agricola Mantovana, che è di proprietà di suo cognato. Grazie Mantova, sì, grazie Mauro da Mantova, non si capisce nulla di quello che lei dice, pochissimo per la verità, è lo stesso. Fra l'altro Saccomanni non ha detto che la crisi è finita, ha detto che ci sono segnali che ci fanno capire, sono segnali tecnici, che naturalmente la gente guardandosi intorno magari non percepisce, perché è chiaro che l'aria non cambia da un momento all'altro. Ci sono segnali che dicono che la crisi sta finendo, è una affermazione così come tante altre. Non ci cambia la vita sicuramente, però ecco, vale per quello che è. Amalia da Torino, buonasera. Buonasera, senta, io vorrei confermare quello che ha detto quell'imprenditore, sì? Che lei dice di non aver capito, perché ogni tanto lei dice di non capire quando ci sono delle discussioni che non, forse molto probabilmente non combaciano con no, lo pensiero. Dico quando ho paura che si vada su cose che si faticano a spiegare agli ascoltatori che ci stanno ascoltando, perché non c'è solo l'ascoltatore che parla, ma ci sono anche tanti che ascoltano. Quindi... ma appunto, ma è giusto, sì. Perché è così. Però bisogna essere bravi anche a dire le cose, essere semplici, sì? Sì. E poi abbiamo bisogno di avere altri fannulloni per controllare i fannulloni, quindi certo che l'Italia va a rotoli, va a dare via qualche cosa, e stiamo andando a dar via qualcosa, no? Cosa? Così. Lo dica, dai che ha voglia di dirlo. Stiamo andando a dare il sedere, diciamolo com'è. Sì. Ecco, non lo so, è lei che quindi è sì. Non possiamo dire che non capiamo queste cose, le abbiamo capite tutti. Ma io non ho capito nulla nemmeno di quello che ha detto lei, si figuri, non ho capito nulla nemmeno di quello che ha detto lei. Cioè, vede, soggetto, lei non vuole capire verbo, quello che non le fa comodo capire. Non, io non ho capito lei cosa vuole dire. Ci sono dei fannulloni che sono strapagati, sì. E poi abbiamo bisogno di altri fannulloni. Allora, se ci sono dei fannulloni che non rendono, mandiamoli a casa. Va bene, Amalia, non si è capito nulla, ma è lo stesso. Non si è capito nulla, ma è lo stesso. Grazie, traffico. And now, the good news! Ad Alessandria c'è una Cargo Bike, una bici rimorchio che recupera e smista i cibi invenduti. A guidarla è Antonino, un disoccupato impegnato con una borsa lavoro della Caritas. Ogni settimana fa il giro degli esercizi commerciali, recupera i cibi invenduti e li porta a un centinaio di famiglie bisognose. Ecologico ed economico. Si può fare l'attualità anche d'estate. Allora, dove andiamo? C'è qualcuno in attesa da più tempo? Vediamo se mi fanno qualche cenno. Riccardo da Bologna, buonasera. Buonasera, Riccardo da Bologna. Eccolo là, prego. Uno, confermo che un pelino di ripresa c'è. Sono un imprenditore, una piccola azienda di informatica e noto che qualcosina di ripresa c'è. Vedi poco, che poi tutto ma torna. Teniamoci la buona notizia. Sì. Secondo, quel parlamentare, Stelle, ma ce li ha 50 milioni di posti a tavola a casa sua? Perché è stato a come hanno improntato il loro governo, probabilmente o andiamo tutti a mangiare a casa sua o non si mangia qua. Parla di un programma, il loro, ma lei l'ha mai letto il loro programma? Sa qual è il loro programma? Ma vai, i programmi, non so chi è che li legge davvero i programmi, per quello che contano. No, appunto, però in tutti i casi, dice, ma noi abbiamo fatto un programma, siamo qui per risolvere il nostro programma. Quale? Non lo sappiamo. Poi credo che non ci sia niente di peggio di dire no a prescindere. L'ha già fatto la sinistra per più o meno 60 anni, piantiamola, cioè facciamo qualcosa, in un qualche modo, piantiamo il corredito tra fantasmi, uccidiamo Berlusconi, così abbiamo finito, se non lo condannano, uccidiamolo, abbiamo rotti santissimi, basta. Però finiamola e andiamo avanti. e poi buona serata a tutti. Grazie, andiamo a Marcello che ci chiama dalla provincia di Udine, buonasera. Sì, buonasera a lei. Beh, innanzitutto io ringrazio Radio 24 per l'opportunità che ci dà appunto di esprimere alcune opinioni in merito a questioni anche importanti. Dunque, io la chiamo da una regione autonoma, qual è il Friuli Venezia Giulia, no? Dove praticamente la sanità, diciamo un settore della pubblica amministrazione dove si possono trovare molte pecche, ecco, nella nostra regione grazie a Dio funziona diciamo abbastanza bene, no? Però abbiamo un problema, nel senso che molte delle prestazioni che vengono regate a cittadini che provengono da fuori da regione non vengono risarcite dallo Stato alla regione. Ora non vorrei aprire un discorso complesso, ma ieri sera a me è capitato di sentire sulla sua trasmissione discutere sul fatto che a Napoli la gente gira senza casco, no? E a un certo punto si diceva appunto che chi gira senza casco è un comunista, ma qual è il problema di girare senza casco? No, era Zaia che aveva detto questa cosa ed era Gabardini in studio che aveva detto che questa affermazione non c'entrava nulla col fisco, col tema dell'evasione fiscale, eccetera. Però sì. Appunto poi qualche altro ascoltatore si è preso con Gabardini dandogli il comunista per questo, non si capisce bene il motivo, ma insomma questa è stata un po' l'evoluzione. E quindi? Ho preso la palla al balzo perché vorrei far presente che molte persone che a causa proprio del fatto che viaggiano senza casco, nella mancanza di rispetto anche del codice della strada e tutto il resto, poi magari facendo degli incidenti ce li troviamo qua nei nostri ospedali a essere curati e lo Stato poi, dopo che curiamo appunto questi incidentati, non ci risarcisce del danno, perché poi alla fine è questo. Quindi non è che non è un problema, un problema è grosso anche. Primo perché le leggi devono valere dappertutto e in ogni zona d'Italia e non perché qui in Friuli c'è lo Stato presente. Vabbè Marcello, ha esaurito il suo bonus per il suo intervento, però anche lei ha perso un po' il filo. Massimo da Roma, buonasera. Eccoci. Mi sente? Forte e chiaro, Massimo, prego. Okay. Io vorrei solo dire una cosa, sì? Spero più breve possibile. Nell'intervento della Mussolini c'è proprio il voler regolizzare una sentenza che francamente va rispettata. Quindi nulla è non debuttare in barzelletta, diventasse una deputata seria come tutti quelli del PDL, rifondassero il loro partito. Nell'intervento della Mussolini c'è la mancanza di regole che ci ha governato per 20 anni. È ora che mettiamo dei paletti e delle regole e cominciassero a rispettarle loro. Va bene Massimo, grazie. Facciamo ancora un altro ascoltatore, Alberto da Treviso, buonasera. Sì, buonasera. Io volevo intervenire sulla vicenda di cui avete discusso molto ieri del monumento in piazza a Genova per Giuliani. Volevo fare chiarezza su un punto dove mi pare che lei ha fatto un po' di confusione, se mi permette. Prego. Un conto è la pietas humana per un giovane ragazzo che, poveretto, ha avuto un infelice destino. Un conto è una questione di un monumento. Come è stato chiaramente spiegato ieri, un monumento è un monumento, è un segno di un esempio. Sì, che poi in realtà, mi scusi Alberto, in realtà più che un monumento è una lapide, perché non è un vero e proprio monumento, è una lapide. Comunque, prego. Allora dovremmo fare monumento a quello che a Sarajevo ha sparato all'imperatore, avanti di questo passo, cioè dobbiamo dare ai giovani degli impegni, degli esempi costruttivi per il loro futuro, non dare indicazioni confuse. Questo mi pare estremamente importante. Va bene, grazie Alberto per questa sua precisazione. Benissimo, adesso è il momento di tirare il fiato, siamo quasi in chiusura, come ogni sera in chiusura vi vogliamo lasciare con una bella storia. Abbiamo parlato in apertura col sindaco di Roma Alemanno di rifiuti, della difficoltà di gestire questa questione qua, e allora sentite la bella storia di cui vi parliamo tra poco. Si può fare. compie proprio in questi giorni un anno un sistema nuovo che è debuttato in Italia appunto un anno fa in sordina, adesso sta crescendo, si chiama Fare Raccolta e ci vuole portare nell'era della clean economy. Adesso capiremo tutto come funziona. In pratica si tratta di una serie di macchinette disposte sul territorio nazionale che si mangiano i rifiuti, danno in cambio punti ai cittadini che si recano con i loro rifiuti, soprattutto plastica, e con questi punti si possono fare degli acquisti. Insomma, un sistema di incentivi ideato da Omar Pivi. Buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. Che avevamo intervistato nel nostro spazio nel weekend, si può fare, che vi riproponiamo qua, visto che comunque questo tema dei rifiuti è sempre, ahimè, d'attualità. Come funziona, Pivi, questo sistema che compie un anno e che adesso ha contagiato diverse città? È partito dalla Romagna, credo, ma adesso è presente in tutta Italia. Sì, è partito a giugno dell'anno scorso da Riccione. Siamo fortunatamente abbiamo ricevuto grandissimo interesse e ad oggi, a agosto 2013, abbiamo inaugurato la 13ª postazione. La cosa più interessante è che abbiamo redistribuito denaro per 41.250 euro. E questo denaro, questi 41.000 euro sono il denaro che le persone che hanno usato i sistemi e quindi le tecnologie legate al rifiuto, che hanno applicato il progetto di marketing Fare Raccolta, hanno risparmiato per i propri acquisti. Ecco, 41.000 euro, benissimo. Spieghiamo allora, facciamo un passo indietro, come funziona? Io ho dei rifiuti, quali, ci dica, e dove vado e cosa succede? Allora, al momento, quando partiamo sempre a raccogliere materiale plastico denominato PET, è un materiale riciclabile al 100%. Quindi bottiglie di plastica, queste, diciamo, cose qua. In tendenza. Ad ogni pezzo le persone ricevono 10 centesimi. Ogni pezzo ricevuto a proprio risparmio, quindi le persone conferiscono i rifiuti, ritirano il loro buono e vanno a spenderlo nelle aziende esercenti commerciali attività, dal prodotto enogastronomico al teatro, al museo, all'alimentare, piuttosto che al calzolaio, addirittura a Ferrara, grazie a Tiziano Ciani abbiamo introdotto Global Ambiente, piuttosto che automazione, piuttosto che allarmi. Non ci sono limiti, si tratta semplicemente di fare un buon gesto e a fronte di questo buon gesto ottenere un vantaggio. Quindi quasi quasi se io ho dei rifiuti di plastica, delle bottiglie di plastica, invece di conferirli nell'ordinaria raccolta differenziata di casa, potrei venire a cercare una delle vostre macchinette per accumulare un po' di punti. Cioè è un po' questo, accumulare proprio denaro da risparmiare, perché poi la realtà è che funziona proprio con denaro, cioè ogni pezzo vale 10 centesimi, quindi 415.000 pezzi raccolti sono 41.500 euro redistribuiti. E il fatto che ci sta mettendo in risalto, sta valorizzando l'iniziativa, è che gli utenti di Misano, che oggi dopo 6 mesi hanno l'opportunità di usare il sistema, possono comunque spendere il buono a Milano, piuttosto che a San Benedetto del Tronto, piuttosto che in Sardegna. Perché voi siete presenti con queste macchinette, che sono 14 postazioni per ora in tutta Italia, siete presenti, se leggo bene, anche a Milano proprio, Trento, Ferrara, San Benedetto del Tronto, Misano Adriatico, eccetera, eccetera, Bassano del Grappa e via discorrendo. Come si fa ad aderire? Cioè, se io sono... Perché queste macchinette stanno in genere nei supermercati, nei centri... Cioè, dove c'è un po' di transito, no, di persone. Diciamo che i sistemi vengono posizionati dove abitano le persone, perché noi andiamo a intercettare i rifiuti in questo caso, quindi i rifiuti sono prodotti dalle famiglie e quindi più vicino mettiamo i sistemi alle famiglie, più semplice è che loro conferiscano i rifiuti. Come le si fa ad aderire, Pivi? Cioè, se io voglio aderire a questa iniziativa? Le attività economiche che desiderano entrare a far parte del circuito e quindi essere tra quelle dove gli utenti possono andare a risparmiare, è sufficiente che mandano una mail a info@fareraccolta.it, ma il concetto è molto semplice, è che anziché utilizzare i volantini, i giornali o la radio o la TV, utilizzano questo nuovo mezzo di comunicazione e succede una cosa ancora più straordinaria che si è verificata durante l'operazione delle spiagge, che è stata patrocinata poi dalla provincia di Rimini. In pratica il ristorante che ha ricevuto i buoni dall'utente non li butta via, anzi il ristoratore utilizza quei buoni magari per andarci a comprare attrezzature alberghiere. visto che ci sono aziende che hanno aderito al progetto che vendono attrezzature alberghiere, diventa una piccola moneta interna, si crea comunque uno scambio. Va bene, Pivi, abbiamo capito, dobbiamo fermarci qua, purtroppo il tempo a nostra disposizione è finito, complimenti comunque per questa iniziativa, fare raccolta, potete andare a vedere anche il sito, capirete meglio di cosa si tratta. È tutto anche per questa sera, io ringrazio Riccardo Buccero, Laura Faggin, Andrea Piana, Carlo Gabardini, l'abbiamo sentito per poco, domani speriamo che vada meglio, Valeria Bernardi in regia, anche da me Alessio Maurizi, l'augurio di una buona serata, ci risentiamo domani 18, 20 e 30, l'orario si può fare, l'attualità anche d'estate.